vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, io sono un professore, voi siete soltanto due giovani coglioni. Non ho detto gioia. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Oulala, ragazzi, buonasera. We should leave them kids alone. Gianni Vattimo, caro Parenzo, sì. Gianni Vattimo. Iniziamo subito così proprio, eh? Beh, non è che iniziamo così, iniziamo col botto. Iniziamo col botto, il professore. No! No, come no, che? No! Perché? Scusa. No! Perché no? No! Che non vuoi sentire la parola? Non è professore! Come non è professore? È professore emerito. No, emerito di... No, perché voi, allora, che cosa vuoi fare? Una petizione all'Università di Torino per farlo cancellare dalle liste? È il teorico del pensiero debole. Debolissimo! Ma quale debole? Allora, ricapitoliamo per i profani, per quei pochi che ieri non erano all'ascolto della Zanzara, grande popolo della radio. Cosa vogliamo dire? Il professor Gianni Vattimo, ospite... Gianni ieri. Vattimo, ti prego, veramente. Va bene, d'accordo. Gianni Vattimo, ospite ieri alla Zanzara, ne ha dette di tutti i colori su Israele, ma veramente... di tutti i colori. Facciamo un piccolo brevissimo riassunto. Iniziamo con nazisti. Sono nazisti puri. Ma figurati, mi sono curato la morte del nemico, che sia israeliano o no, non me ne importa niente. È un oppressore che sta distruggendo un popolo. Allora, se muore tanto meglio, che crepi. Ma scusi, ma lei contro i nazisti cosa avrebbe fatto? Delle prediche? Avrebbe fatto parlare Lutwak? Accidenti, questi sono nazisti puri, puri nazisti. Peggio di Hitler da questo punto di vista? Peggio di Hitler un po', forse sì, perché ha anche l'appoggio delle grandi democrazie occidentali, cosiddette democrazie occidentali. Voglio più morti israeliani. Vabbè, ma lei farebbe piacere se un razzo andasse a segno, un razzo palestinese? Ma non so, per carità, mi piacerebbe che ci fosse una guerra un po' più pari, invece assolutamente... Cioè vorrebbe più morti... Vorrebbe... Una strapotenza contro un popolo inerte. Vorrebbe più morti israeliani, lei? Ma direi, se li merita, se li pigli, vogliono la guerra, direi. La facciano sul serio, ma non così. Non facciano la gara con uno con una gamba di legno. Sparerei contro gli israeliani. Se fosse lì, sparerebbe contro gli israeliani? Beh, dipende, io sono un non violento. Ma farebbe la guerra contro Israele? Gli israeliani che bombardano ospedali, cliniche private, bambini, eccetera, eccetera, sparerei, certo. Purtroppo non sono capace, perché non ho fatto il servizio militare, essendo figlio unico di madre vedova. Però imparerei volentieri. Imparerebbe volentieri a sparare, caro Parenzo. Imparerebbe volentieri a sparare. Ed è un uomo di pace, ha detto. E questo è un uomo di pace, ha detto. Un uomo di pace. Allora, qualcuno ha titolato vado al battimo. Cioè, vado al, come dire, vado al invece massimo, di vado al massimo, cioè, vado al battimo. Vado a farmi curare. Rinuncerei anche ai diritti degli omosessuali, cioè a essere gay, perché come sappiamo, se uno è omosessuale e va in mezzo da massa, non fa un bella fine. No. Senti. Vada in Palestina a fare il gay pride che la mettono. Se c'è questo, mi assoggetto anche le loro leggi. Cioè? Rinuncio a Satana alle sue pompe. Vado lì e combatto contro questi bastardi di israeliani sionisti che non hanno niente da fare con gli ebrei, tra l'altro. Teacher, leave it! Scusa, ma che cosa vuol dire l'espressione rinuncio a Satana e alle sue pompe? Non ho capito bene. Questo cosa mi era sfuggito nel, sì, anche a me era nel sfuggito, flusso poi. Nel flusso di delirio e di odio mi era sfuggito. Siamo ai livelli di Himmler, di Kapler, di Goebbels. No, non esagerare. Siamo a quegli intellettuali al servizio del nazismo, al servizio di Hamas. Allora faccia piacere quell'altro imbecille. Nel commentino del professore questo. Allora, cari amici, siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Devo dire una cosa, tutta la politica italiana è impegnata in una discussione, vedo grande entusiasmo nei bar, per strada, sì, nei taxi, nelle metropolitane, in metro, in autobus. Oggi ho preso, ho preso la metropolitana a Roma, un'esperienza che non voglio augurare a nessuno. Non ti hanno dato la limousine nera, allora, del sole 24 ore? Vedo grande entusiasmo per la nomina di Mr. Pesk, Miss, forse, diciamo Miss. La ministra degli esteri europea. Sì, il ministro degli esteri europea, una persona che non conta una mazza. No, ma perché? Non conta una cimpa, nulla, assolutamente nulla, nulla. Occupa una inutile poltrona a spese nostre, tra l'altro, una inutile poltrona, e si stanno accapigliando da giorni per la nomina di un personaggio inutile, che sia la Mogherini. Ma non vogliamo l'Europa. Che sia allora una inglese, che sia una slovacca. Inutile, inutile. Non conta e non ha mai contato nulla, nulla. Dunque, a noi della Zanzara non ce ne frega una mazza. Beh, no, io sono felice se un italiano ci va invece. Tu sei felice? Molto felice. Io vorrei che fosse abolito il ministro degli esteri dell'Europa. E allora vogliamo l'Europa, fine. Appunto, chiudiamo l'Europa, chiudiamo la Claire giù, come vuole il signor Farage, ad esempio. Chiudiamo l'Europa e basta. Renzi, ieri sera in uno speciale della Sette: accetto le accuse da Salvini, ma non di autoritarismo. Ed effettivamente queste accuse di autoritarismo per la riforma eccetera sono abbastanza ridicole, eh? È ridicola la riforma del Senato, secondo me, come stanno inquadrando il Senato. Ma ancora più ridicola è l'accusa che si fa di governo autoritario, che ci sarebbe un governo in Italia. Non si vuole. C'è una tale quantità di pesi e contrappesi che quando uno dice, vabbè, diamo un po' più di potere all'esecutivo, tutti si spaventano. Renzi: e credo che certe accuse di autoritarismo siano profondamente ingiuste. Io posso accettare di sentirmi dire da Matteo Salvini che ho le mani sporche di sangue per Lampedusa. Mi dà più noia che persone del mio partito debbano accusarci di autoritarismo quando questo modello che proponiamo può essere un modello sbagliato, non condiviso, ma certo è difficile da essere associato a democrazie che non sono tali o a regimi illiberali come qualcuno tra di noi ha voluto fare. Le zanzare di casa mia. Oh, sentiamo qualche scontrino, qualche scontrino, qualche bella contrapposizione. Zucconi Salvini, Zucconi Salvini. Ieri a Millennium, sentiamo. La cruda bella. Il tuo mondo è quello che sta morendo. Il tuo mondo, servo delle banche di Bruxelles, sta morendo. Servo della demagogia. Tu, servo delle banche di Bruxelles. L'Italia non ha niente da invidiare. Servo del mare, un po' di rispetto alla sua età lo dovrebbe dare a qualcuno che ha qualche anno in meno. Detto questo, no, l'Italia questo non, è buona, non hai visto un tubo, non hai visto, non hai visto un tubo della vita. Non ha niente da invidiare. Si può permettere l'Italia di dire messa in condizione di lavorare. È un lusso che non abbiamo. L'Italia messa di casa. Ancora Zucconi Salvini, dai. Si sbronzano di me. Senza l'Europa l'Italia sarebbe quel paese, stavo per dire una parolaccia, straccione dei ladri di biciclette di Miracolo a Milano, che era dopo la guerra fatta in base all'autarchia, Salvini, fatta in base a fuori d'Italia prodotto straniero. Ma figurarsi, certo, con la lira in tasca al posto dell'euro eravamo la quarta potenza mondiale. Sì, perché con il Brasile, la liretta Cina e l'India non c'erano. Brasile, l'India, adesso la con l'eurone, col monetone, Salvini, il mondo è cambiato. Abbiamo una disoccupazione che non c'era neanche 40 paese anni fa. Il mondo è cambiato, Salvini. Intanto voglio annunciare Urbi e Torbi che è tornato Scilipoti a combattere. Sì, l'ho visto. Sentiremo sera più avanti. Potrebbe addirittura tradire ancora una volta. Cioè potrebbe tornare a fare il 14 dicembre perché non vuole votare la riforma del Senato. Siamo veramente all'incredibile, amici miei. Siamo all'incredibile, popolo della Zanzara, all'incredibile. Oltre a non pagare le quote del partito, questo chi se ne frega, oltre a non pagare le quote del partito, potrebbe anche tradire di nuovo. Grande ritorno alla Zanzara, Massimo Giletti. Buonasera. Eccoci. Caro, dove si trova, caro Giletti? Dove sei? È bella la vita, Massimo. La spiaggia? Devo dire che sì, oggi è proprio bella. Oggi dove sei? Al mare, in spiaggia, a farti un massaggio? No, sono in un posto che se vi dico dov'è, poi vi raffreddate, vi prendete paura, insomma. No, dici, dove sei? No, che ci vediamo paura, no, dici. No. Al mare, dai, giocare a tennis, dove sei? Dopo Scilipoti è meglio non parlare. Dai. Ma come è meglio non parlare? Adesso non è che... Sei mica il segreto di Stato, Vai, no. Non vuoi dire dove sei? Vabbè. Sei in vacanza comunque. Segreto, sì, sono sei in vacanza in posto segreto, te lo dico a voi e poi finisce un pastiglio. Allora, vabbè, ma sei in lutto o no? Juve, sei in lutto o no? Diciamo che è stata la giornata del Millennium Bang, quindi... Calambur del Millennium Bang. Millennium Bang, come capisci, no? È criptica, ma insomma è no, è non è criptica. Che... Diciamo che hai detto che il Millennium, nuovo programma di Rai 3, prima serata è stato un flop, diciamolo tutto. Dico, è stato un problema anticipato il nostro in questa giornata difficile che abbiamo vissuto, ecco, perché Conte per me è qualcosa di più di un insomma, io ho un rapporto molto stretto con Antonio, per cui... Ma cosa ti ha detto? Vi siete scambiati dei messaggi con Conte? Calambur. No, abbiamo avuto una lunga telefonata, ma ovviamente quello che ci siamo detti rimane tra me e lui, ma è un problema. No, ma ti ha spiegato i motivi delle sue dimissioni o no? Sì. Certo che me li ha spiegati. E quindi? Ma li ha spiegati a me. Lo so che te l'ha spiegato a te. Noi siamo... Ma se ti chiamiamo, che stiamo a fare? Scusa. Tu mi potevi chiamare. Allora dovevi chiamare l'imitatore di Andrea Agnelli, dovevi dire: Massimo, cazzo, ma come mai Antonio va via? Cioè, Massimo, allora ci stava. Massimo, tu sai che gli scherzi vanno fatti in un momento, in certi momenti. E non annunciati, soprattutto. Adesso me l'hai bruciati tutti quelli possibili. Me l'hai bruciato. Dovevi farlo a me, io ci cascavo come una pera, e allora ti avrei detto: ma guarda, io parlavo con Antonio e mi ha detto ta. Io lo sai come sono uno fedele, sono i 200 anni dell'arma dei carabinieri. Però fedeli anche con questo senso. Dunque sei fedele in tutti i sensi, anche con le donne sei fedele. Sì, soprattutto con le donne credo siano molto fedele. Io sono fedele a Physis, che è la natura, non a Eros, che è amore, eccetera. La natura mia è di essere un po' così. Di essere fedele. Sì. Di essere fedele. Luca, sei fedele, non vuoi rivelare che cosa ti ha detto, però diciamo i motivi di mercato. È un rapporto che si è logorato lentamente, penso che sia qualcosa questo. Che comunque piano piano è venuto fuori, alla fine certo spiace perché insomma quando torna dalle vacanze e parte con una squadra nuova da via è un po' strano, ecco, ma Massimo Giletti, tifosissimo della Juventus, è come se ti avessero staccato un braccio, tolto un rene, che possiamo dire? No, tolti tutte e due, perché proprio secondo me la Juve di oggi è solo Conte, era molto Conte, quindi la sfida difficile che ci sarà, se credo impossibile, poi per carità la Juve va avanti al di là degli allenatori, no? La storia. Senti, ma Juve, tu capisci i tifosi della Juventus che dicono: abbiamo fatto l'abbonamento con Conte e ci ritroviamo Allegri? Cioè, li capisci questi tifosi della Juventus o no? Si pensa, se non si chiamava Allegri come si potevano trovare questi che hanno fatto l'abbonamento? Io capisco anche che stiano postando tutte le cose che dice la vecchia fidanzata di Allegri contro la Juve. Ha detto Juve vergogna d'Italia. E quindi anche questo, capisci che è difficile. Allegri come si comporterà con Pirlo, che l'ha mandato via 2 anni fa, 3 anni fa? Cioè tu non hai nessuna fiducia. Tu non hai nessuna fiducia in Allegri. Io non lo so, sarei bugiardo oggi se dicessi fiducia in Allegri. Credo che la fiducia la devi meritare sul campo, arrivi. Ha gestito Berlusconi e Allegri, questo è un dato di fatto importante. L'ha gestito e quindi ha le spalle larghe, un po' che fa il Milan con Berlusconi presidente, è pronto a tutto. Ma la fidanzata, però, per quello che ha scritto, deve chiedere scusa secondo te alla Juventus? Ma io non, se uno dice delle cose le scrive, che senso ha dire scusa dopo? Se ne ha sentite, le ha dette, ha sbagliato a dirle, evidentemente si lasciava prendere dal pathos del rosso nero. Però... anche Romiti tifava, ma poi ha tifato Juventus. Non vorrei che adesso facesse dei post contro Inzaghi, ecco, quello mi spiacerebbe. Sì, è giusto, se uno ha pensato in quel momento, perché scrisse la fidanzata, non so se sia ancora la fidanzata, perché la vita sì, di ancora, presa, no, la vita privata di Allegri è stata sempre un po' turbolenta. Comunque, una tale Gloria Patrizi scrive: Juve vergogna d'Italia, migliore in campo Mazzoleni, e fu credo un episodio, non mi ricordo, relativo alla stagione della Juventus 2 anni fa. Scopi. La signora, la Rivelli. Signora Rivelli. Rivelli, la figlia della signora Muti. Ecco, vabbè. Vabbè, è un po' la zanzara hot. Allora, abbiamo con noi Massimo Giletti, che è un po' in lutto e ha detto che è come perdere praticamente un rene, due rene, cioè la dipartita di Conte. Ma quella di Floris invece, vogliamo parlare della dipartita di Floris? Io voglio chiedere una cosa, però, oltre ad avere definito Millennium, com'è che ha detto Millennium? Non lo Bang. So, non ho capito. Millennium, com'è che hai detto? No, abbiamo anticipato di un giorno il Millennium Bang, visto che le dimissioni sono state ieri. Ecco, per noi è un Millennium Bang, non date valutazioni televisive. No, per carità, soprattutto il socio di Cruciani, non deve dare. No, guarda che sei tu che stai facendo le battute, caro compagno Giletti. No, io non ho fatto niente. Ho sei detto, tu che sei, hai esordito Millennium... così, compagno Giletti. Senti, Massimo, se tu fossi direttore di Rai 3, chi metteresti al posto di Floris? Floris è insostituibile, sono degli personaggi che sono difficilmente sostituibili, devi prendere qualcuno che cambi, stravolga tutto, non mandi in onda un programma politico, perché sarebbe la copia comunque dell'immaginario di chi l'ha seguito per anni di Floris, e comunque non viene bene. Dovrò azzerare, cambiare, fare tutta un'altra roba. Lo sai che la penso esattamente come Giletti, l'ho detto quando è scoppiata questa vicenda. Secondo quando me Giuliano Ferrara dovrebbe farlo. No, ma lascia perdere Giuliano Ferrara su Rai 3, lascia perdere i nomi. Io, secondo me, io vado anche oltre quello che ha detto Massimo, cioè io dico che dovrebbero togliere il nome Ballarò. Sì, sì. Vabbè. Giusto? Sono convinto, è un errore. Guarda, forse la strategia era quella anche di Santoro, che cambiava di volta in volta il nome, eccetera. Ma se tu riprendi il nome Ballarò e piace qualsiasi altro, è perda lì. Sì, sì, sono convinto. Dimmi una cosa, ma al di là del fatto di cambiare, un conduttore lo metteranno, no? Qualcuno lo metteranno, lo sceglieranno, lo stanno cercando. Che so, Bianca Berlinguer. Sceglieranno una donna, ma non sarà Bianca Berlinguer, perché credo che chi conduce un telegiornale ha già troppo impegno per seguire. Potrebbe lasciarlo, potrebbe lasciare la direzione. Ma non credo, ma non lo so, ma Bianca è interessante, ma non lo so. Ma tu lo faresti? Ripeto, per me, io? Io non farei di fare Ballarò, farei altro. Però lo faresti se ti offrissero. Lo farai a gennaio. Se ti offrissero. Ma io ho un progetto su Rai 1 interessante che va avanti molti anni, e poi quest'anno farò qualcosa di diverso il mercoledì sera, è una giornata tragica, ma ci proviamo. Vabbè, ammetti che qualcuno ti offre qualche matto, cioè Vianello un giorno ti dice: Massimo, fai un talk su Rai 3 in prima serata, lo fai martedì contro Floris, ci andresti o no? Mi piacerebbe, sarebbe più stimolante andare contro Santoro giovedì, e anche giovedì. Soprattutto contro Virus. Addirittura. Ma che bel clima in Rai, però. Però scusami un attimo, tu fossi la Rai, riprenderesti Santoro per il martedì sera? Io subito. Santoro è un numero uno assoluto, sarebbe, e questa, anzi, in questo vuoto, vuoto lo prenderei subito, credo che sarebbe interessante. Poi, se non possiamo permetterci Santoro in questi momenti, insomma, bisogna investire, è un personaggio che da solo fa spettacolo, quindi va bene. È uno dei pochi che ha veramente notizia, e quindi credo che sarebbe un'offerta, un minimo di un tentativo di portare, potrebbe farlo. Senti un attimo, ma recentemente, adesso ti dico una cosa strana, perché mi ha incuriosito Alessandra Mussolini, è venuta da noi a Strasburgo quando eravamo in diretta, e ci ha detto, è ritornata su questa cosa di Vespa, figlio di Mussolini. Ma secondo te ci può essere qualcosa di vero in questa roba qua? O è una follia? Ma no, e la nonna intanto non faceva la cuoca. Io sono andato un po' a indagare, perché tutti, vabbè, anche Bruno ci giocava con sua storia, con lo sguardo, la mamma non faceva la cuoca, insegnava, quindi la vedo difficilmente in un rifugio vestita col grembiulino a servire in tutti i modi Benito, quindi è proprio sbagliato di partenza. Dunque per lei lo tira fuori così per giocare? No, storicamente è errato, perché la mamma di di Bruno faceva. Ma adesso ultimamente si è incazzato. Lui si è pure incazzato. Ma ti credo, scusa, ma siete così di tua no, madre. No, si è arrabbiato dicendo credo, basta scusa, con questa storia. La Mussolini ha perso la testa. Ma per forza, ma... dai. Sì, beh, insomma, qualche problema di recente ha avuto la Mussolini. Però insomma, insiste su una cosa che storicamente è facilmente smentibile. Mi sembra sbagliato. Ma fa bene Cairo, secondo te, a fare tutti questi programmi di attualità? C'è l'anno prossimo di politica, ma di che se parla? Cioè alla fine non ci sono le elezioni, non c'è niente alla fine. No, cioè, non c'è più Berlusconi, quando non c'è più Berlusconi è dura fare i talk politici. Adesso pure Grillo si è messo a fare un po' il moderato, addirittura potrebbe anche non impegnarsi non più. È, non è più Grillo, non c'è più Grillo, è moderato, fa gli accordi, vuol fare in streaming domani, insomma, non lo so. È un disastro pure per te che fai l'Arena l'anno prossimo, un disastro assoluto. Ma, però devo dirti che l'Arena sopravvive alla grande, perché non facciamo politica pura. Andiamo da altri lidi, dai, cerchiamo di fare altro anche, questa è la differenza. Però è difficile, certo è difficile. Berlusconi è stato un grandissimo cliente per tutti, quindi ci ha dato da mangiare, anche i comici sono spariti, no? Beh, Crozza no, anzi. Sì, va bene, però ha trovato Renzi. Diciamo che si salva perché ma è uno dei pochi, gli altri che hanno costruito tutta la loro storia su Berlusconi è vero, fanno molta fatica. Senti Massimo, però c'è una cosa da dire in questa vicenda di Floris, che la Rai sembra veramente in una situazione, non dico drammatica, però in grande difficoltà. Adesso la spending review, questa cosa di Floris, gli unici talk a parte l'Arena ovviamente che ci sono appunto Virus che hai detto e Vespa, diciamo talk veri e propri, no, al di là della mattina. Fazio c'è poi. Sì, Fazio, però talk di politica così, cioè non la vedi un po' veramente in grande crisi, la grande crisi o no? È vero che ha mille difficoltà, è vero che c'è questa richiesta di 150 milioni, è vero tutto, però la RAI, nonostante tutto questo, anche delle scelte su cui si può molto discutere, è ai vertici da sempre, è l'unico prodotto pubblico. Cioè oggi tu lo pagheresti, da cittadino lo pagheresti il canone oggi? Sempre, bisogna pagarlo, io farei anche una proposta a Renzi, tu mi chiedi 150 milioni, io ti chiedo di fare come si fa all'estero, cioè abbinare il canone all'elettricità in modo tale da farlo pagare a tutti, ma molto di meno. Questa oppure venderesti due reti, ad le ganasce, oppure vendere due reti. No, non vendo nessuna rete, faccio pagare a tutti il servizio pubblico, come è giusto, di meno, devono pagare tutti, e forse farei qualcosa ancora in più di servizio pubblico magari, cioè toglierei il direttore solo per tutte queste reti che abbiamo satellitari, cioè ci sono tante cose da fare, ridurre un po' sedi regionali, farei un discorso molto diverso, ma... fare in due minuti si fanno anche degli errori, no, certo. Però la RAI è vero che ha delle difficoltà, ma è altrettanto vero che, ripeto, rimane sempre leader, e questo è importante. Vabbè, però sulla... no, è leader d'ascolti comunque. Sì, vabbè, però difficoltà, ferita, zoppata, ma grazie poi a delle energie interne che poi non si riesce mai a capire come è possibile. Allora, oggi ho letto un'intervista molto interessante, caro Parenzo. Ma sembra in una grotta. Sì, in una grotta, in vacanza. Ma vacanza benissimo. Una grotta a Capri. Una grotta. No, sarebbe troppo complicato Capri, dai. Allora, la cosa fondamentale è qui. Irene Grandi oggi ha fatto un'intervista in cui ha detto: se io vedo mio figlio che si fa una canna, me la prendo e la faccio insieme a lui. Sì. Allora, per me è una grandissima risposta. Io voglio sapere da Giletti, che è un uomo moderno, un uomo di mondo. Ma lui se l'è mai fatta le canne? Sì, te le sei mai fatto? Qualche canna te la sarei... Quando io dico che le canne non me le sono fatte, ma mi guarda in modo strano, perché dico, ma però in realtà sono già fuori un po' di mio. Se mi facessi pure le canne. Ma la legalizziamo sta droga leggera o no? No, mai. Non penso, io non fumo, io non prendo caffè, ho altri limiti, ho altri vizi, ma quello no. Ma legalizziamola sta droga leggera, per noi siamo grandi fautori della legalizzazione. Guarda, il discorso della legalizzazione, secondo me, è un discorso da trattare, anche perché così togli soldi alle mafie, alle camorre che gestiscono tutto questo traffico. Per cui potrebbe essere una soluzione. C'è grande sdegno nella comunità ebraica italiana. Beh, ti credo. Questo potremmo anche passarci sopra, non è tanto quello. Per le frasi pronunciate dal signor Battimo, qui alla Zanzara. Signore Battimo. vado lì e combatto contro questi bastardi di israeliani sionisti che non hanno niente da fare con gli ebrei, tra l'altro. Andiamo con un po' di dibattito, un po' di schifo, un po' di schifo, un po' di fogna. Calma. Quanti sono morti in Israele per questi razzetti del cazzo? Nessuno. E lì ci sono 200 morti almeno, bambini, donne, finti terroristi che voi chiamate terroristi. Questo è il punto. Ancora, sono disposto ancora ad aprire una sottoscrizione per comprare armi ai palestinesi, ma nessuno ce lo permetterà, perché siamo nelle mani di un governo sionista filo che ti dà subito dell'antisemita. Vuole stare a guardare commuoversi con la pioggia di missili innocui sparati da Hamas contro Israele? Ma andiamo, ragazzi, aprite gli occhi. Israele vuole distruggere definitivamente i palestinesi in modo da non averli ritornati, ovviamente, no? Quindi è una guerra di puro sterminio, quello che da vent'anni Israele sta facendo. Cosa crede che sia Gaza? Certo non ci sono le camere a gas, ci sono le bombe. Vuole mettere? Le bombe no, non va bene. Ma mi dica quanti morti hanno fatto queste bombe, mi dica solo una vittima. Una vittima! No, io sono un professore, voi siete soltanto due giovani coglioni. Le hanno le armi, solo che ci sono i sistemi antimissili. Dei razzetti per bambini. Dopo la brigata internazionale farò una sottoscrizione mondiale per permettere ai palestinesi di comprarsi delle vere armi e non delle armi giocattolo. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Ancora morti in Medio Oriente, 4 bambini sulla spiaggia di Gaza uccisi da un bombardamento israeliano. Hamas ora tratta per la tregua. Vertice sulle nomine, Italia e PSE vogliono la Mogherini agli esteri, dubbi da popolari e baltici. Renzi pronto al braccio di ferro, Alfano non ci sono veti. Riforme, il voto slitta a lunedì, oltre 7.000 emendamenti, resta il no dei dissidenti del PD. Chiti, non esiste la democrazia senza i cittadini. Forza Italia, rispettiamo il patto con Renzi, ma avanti con le critiche alla politica economica del governo. Grillo, dittatura a norma di legge. L'ex premier Prodi testi al processo sulla compravendita di senatori. Io non sapevo, ma sul cambio di casacche c'erano chiacchiere ogni giorno. All'Italia la CGIL non firma l'accordo sugli esuberi, ma l'intesa con Etihad va avanti. Si chiude a fine mese, dice il numero uno della compagnia araba. E dopo l'addio inatteso di Conte sarà Allegri, il nuovo allenatore della Juventus. Tifosi scettici, ma lui assicura, pronti per una nuova stagione vincente. Lorenzo, tu da quant'è che non scopi? Questa è sempre la... Allora, io voglio però propormi qui una cosa. Vittorio Sgarbi, l'altro giorno, quando è intervenuto alla Zanzara, ha detto che cosa, Parenzo? Che per risolvere due questioni insieme, la mafia e la questione israelo-palestinese. Era una provocazione, chiaramente. Una provocazione. Ma dai, ma certo. Però da 50 anni là si spara, non succede niente. Ma non è là si spara, cosa vuol dire? Là si ammazzano e si spara, non succede nulla di concreto, non si risolve la situazione. Nulla di concreto. No, la situazione Oslo, non si risolve. Accordi internazionali. Il professore Sgarbi cosa propone? Diamo la Sicilia ad Israele. Diamo la Sicilia. Così, in un colpo solo, che succede? La mafia con Israele, diciamo, l'esercito israeliano farebbe Piazza Pulita dei signori padrini e nello stesso tempo risolta la questione israelo-palestinese. Sgarbone. Il mondo è abbastanza spazioso per contenere tutti. L'idea che si era detta negli anni passati rispetto all'evoluzione della civiltà e della vita in Israele è che dovrebbe essere uno Stato d'Europa, uno Stato Unito d'Europa. Si potrebbe immaginare che loro si trasferissero in Sicilia, ecco, potremmo dargli la Sicilia, è perfetta la Sicilia, finirebbe la mafia e sarebbe diamogli la Sicilia al posto di Israele, sarebbe perfetto. Welcome to the jungle, it's world. Allora, posso dire una cosa? Ovviamente ho fatto parlare anche il signor Battimo. Parenzo non lo vuole chiamare professore per fargli dire tutto quello che pensava. Ma la dico una volta per tutte: secondo me ha detto delle enormi cazzate. Oh, dillo, perché sennò. No, qua sembra che io faccio. Reggo, no, la. Reggi il moccolo, il microfono. A Battimo. Ha delirato. Ha detto delle grandi cazzate. Cose poi forse odiose, c'è qualcuno, violente. Lo sentiremo, che vuole portarlo in tribunale per questo. Vedremo. Cose odiose e violente, ha detto. Allora, Abdul Bologna, il signor Abdul. Abdul. Buonasera, Abdul. Dimmi. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera. Ciao, Abdul. Vi chiedo scusa perché il mio italiano è pessimo. No, io niente, volevo mandare questo messaggio al signor, al professor Vattimo. Sì, dimmi. Sai, sì, magari lui pensava di formare un gruppo di soldatini per andare lì. Io mi offro volontario. Ah, eccolo il primo. Sì, è arrivato, sì, caro sì, Parenzo, sì, il signor Abdul da Bologna vuole essere volontario nell'esercito volontario. Delle brigate internazionali di Vattimo, signor sì, Abdul. Certo. Ma lei è un cretino. Lei, Abdul, vorrei vederlo questo. Va benissimo. Comunque io so che anche lei ha paura del lobby israeliana, però vabbè. Ma quale paura di lobby israeliana? Ma di che sta parlando? Guarda che secondo me quello che ha detto il professor Vattimo, molti intellettuali di questo mondo lo pensano come lui, quello che non hanno paura di dirlo, invece lui ha le palle, non gliene frega niente. Che c'entra, Abdul? Anche durante il nazismo c'erano intellettuali al servizio del regime, che c'entra? Sì, no, anche alla corte di Saddam ci sarà stato un professore. Allora, alla corte di Saddam. Io volevo dire questo. Io sinceramente, per me la cosa che mi dà fastidio di più è la solita puttanata occidentale che dicono sempre è un'organizzazione terroristi, ma Hamas è una associazione irenica, no, per la pace, no, Hamas sono persone che combattono per liberare il loro popolo, come hanno fatto tutti i popoli nella storia. Vabbè, comunque adesso non andiamo a fondo in questa cosa. Abdul, lei si arruolerebbe volontario in queste famose brigate internazionali che non ci saranno mai, come nella guerra di Spagna contro Israele? Ma giusto? Se starei comodo a Bologna, l'occupazione. Io dico l'occupazione, lei sta là in buca di tre a Bologna. Sta lì a Bologna a mangiare i tortellini, ma quale rivoluzione, sì, dai, su. Dai, Abdul. Vabbè, ciao, Asiar, sentiamo un altro, ma Asiar Milano, signor Asiar. No, buonasera. No, Asiar, Masia, Giuseppe, impara. Come ti chiami? Asiar, vabbè, uguale, dai. Ma che cazzo ne so come si pronuncia Asiar, vabbè, dai, su. Dai, su. Si scrive, insomma. Allora? Tra le altre cazzate che ha detto, scusa il termine, Parenzo, che ha la sparata più grossa del professore, che in fondo, sebbene ha esagerato, comunque aveva, diciamo, delle cose corrette, diceva che Israele andava a bombardare per liberare i palestinesi. Certo, cioè, certo. Ma si può dire una per difendere quei palestinesi che vivono a Tel Aviv, che vivono a Gerusalemme, aspetta. I palestinesi che vivono in Israele ringraziano l'esercito israeliano, certo, che li difende dai missili di Hamas, attimo, i missili dei fratelli, dei fratelli di Hamas, come li chiamano lì, sì, fratelli. Sta buono tu che vivi qui, sì, con la pancia piena, per fortuna, sì, tua, giustamente. Ma anche tu, stai tranquillo. Io certo, guarda, io sono italiano, figurati. E che c'entra? Comunque, a parte questo... Di dove sei originario tu? Di dove sei originario? Non è interessante. No, è un po' interessante invece. Assolutamente. Di dove, no, visto che io difendo l'immigrazione, di dove sei originario tu? Di dove sei? Ma sono... Di dove? Dimmi di dove. Dell'Egitto, no. del Libano, della Siria, del Maghreb, di dove? Volevo chiederti... Del Marocco? L'attentato di Via Rasella. Oddio. No, mamma dopo mia. L'attentato di Via Rasella, i tedeschi che dovevano fare? Bombardare Roma? Senti, la differenza è che qui c'è una dittatura, che c'è un regime che è quello di Hamas, che bombarda una democrazia, perché vabbè, tutto è iniziato da lì, non viceversa, capito? Vabbè, Paolo da Milano, dai, Paolo. Mamma. Pronto, ciao. Dimmi. Mi senti? Ciao. Dai, dimmi però, vai. La questione israeliano-palestinese, ma l'inizio è un altro. Massimo Giletti, che sia un opinionista, è veramente una cosa che mi fa ridere. Nick l'ho sentita ieri. Che ti ha fatto di male il signor Giletti? Uno che conduce una trasmissione, punto e basta. Di successo, peraltro. Dice delle banalità, comunque brava. E vabbè, se lei, per lei sono delle banalità, può dire in questa trasmissione, peraltro, che sono delle banalità. Va benissimo. Ok, infatti, è una libertà. La trasmissione la conducete voi, la trovo fantastica. La conduzione chirurgica, i complimenti non ti piacciono. Vabbè, non ce ne frega niente. Dai, Paolo, ma che volevi dire? È un dato di fatto. Se voi andate a vedere la cartina, la piantina della Palestina dal 1946 al 2014, vedete che nel 1946 la Palestina occupava il 95-97% dei territori, nel 2014 la Palestina ne occupa il 2-3-4%. Questi sono i fatti. La questione qui, vabbè, però qui non è un seminario di storia. Paolo, che cosa vuole dire sulle frasi di attimo lei? Seminario. Voglio dire che sulla questione israeliano-palestinese le cose volano molto più alte sulle nostre teste che non quanto si stia dicendo. È come la questione di Messi, che sia il più bravo ai mondiali, piuttosto che la separazione consensuale di Conte e Andrea Agnelli. Ma sono tutte cose che giornalisticamente lasciano il tempo che trovano. Vabbè, Paolo, grazie, buona serata. Non ha detto nulla, eh. Un minuto e mezzo di intervento e non ha detto un cazzo. Io sono un professore, voi siete soltanto due giovani coglioni. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Buonasera, allora, siete due facce di merda, ovviamente. Bella e libera, guardava avanti. Oh, cosa viene fuori oggi dagli amici di Radio Padania? Ecco, dagli amici di Radio Padania, rubrica quotidiana. Mancavano. Il signor Pellegrini dice che io prendo più soldi di Floris, forse alle traveggole. Caro signor Pellegrini, lei ha le traveggole. Prendi 600.000 euro all'anno, non credo. Ma assolutamente, assolutamente. Non permettere. Cosimo Gauciù, tu registra sempre. Mi raccomando, che io voglio che il tuo padrone ce lo dica quanto prende. Ma secondo me da 700.000 euro in su prende il tuo padrone, Cruciani, l'anno. Secondo me prende anche 1.200.000, perché se danno tutti quei soldi per 3 anni, 4 milioni a Floris, sinceramente Cruciani se ne merita di più. Perché detto così, insomma, non voglio fargli complimenti, perché non è un complimento essere 3 volte più bravi di Floris, secondo me. Ma Cruciani doveva prendere il triplo, quindi vuol dire che qualche milionata se la porta a casa. Magari, caro Pellegrin, magari, amico mio, magari. Pellegrin. Aspettiamo ancora le orde islamiche di Fenzo, cioè del bimbo scemo. Ma ancora non si è messa in moto la nostra macchina, amico mio. Stai attento, Pellegrin, che non stiamo, ci provocare. Stiamo arrivando. Che trasformiamo arrivando. Radio Padania in una. Nella più grande radio multietnica d'Europa. Stiamo ancora aspettando le orde islamiche. Le orde multiculturali del bambino scemo. Bambino scemo, avanti, mandaci le orde. Hai minacciato. Bambino scemo, mamma mia, bambino scemo. Come una madre e un figlio. Dai, su. Pellegrin. Il potere falso che ci spreme. Senti un ascoltatore che dice: non riesco a intervenire su Radio 24. Amico mio, farai male il numero. 800 24 0024. Ecco. Tutto per la libertà. Cruciani disse che anche la loro è una radio libera dove tutti erano liberi di telefonare. Me lo conferma anche lei, Angelo, non è così. No, io sono anni che cerco di telefonare, ma non ci sono mai riuscito. Cruciani, ascolta questo signore, visto che c'è Cosimo Cauciù che mi spia e che mi sta registrando, dai una risposta ad Angelo e tutti gli altri, tutti quelli che mi dicono che non riescono a parlare con voi. Dagliela una risposta, vediamo se ci riesci. Allora, lancio questo appello, amici di Radio Padania che seguite Radio Padania, telefonate in massa qui per attaccare Parenzo, per fare quello che volete. Beh, avete il microfono sempre aperto qui, sempre a disposizione, evidentemente trovano occupato. Chiamate qui invece di chiamare Pellegrino, chiamare l'altro. Ma come chi si chiama? Chiama Pellegrino, manco. Sì, ma chiameranno, qualcuno chiamerà. Ma manco la madre lo chiama, ma perché si vergogna? Poi un giorno parleremo della questione delle frequenze che acquistano, che riescono a prendere le frequenze a costo zero e a rivenderle. Giovanni Benincasa che mi scrive: mi faranno entrare a Radio 24? Sì, Giovanni, ti fanno entrare. Sì. Nino da Palermo. Permetterò a tiranno di accecarti. Si impossessa di me. Ero a Nettuno ieri sera. Sono andato a prendere una pizza con mio figlio piccolo. Eravamo lì. E a un certo punto è arrivato il cameriere e dice: ecco la pizza margherita. Parti il conto subito, d'accordo? Il cameriere mi ha guardato come se fossi proprio indemoniato, no? Soltanto 70.000 euro una pizza margherita. 70.000 70.000 euro! Ma dico, ma come 70.000? 7 euro, 70! Libertà. Lo scontro Parenzo Marchi lo proporremo più avanti, con la Marchi e con Stefano Nobile che lasciano la Zanzara. Fra pochi minuti un grande ospite, grandissimo ospite, torna alla Zanzara Paolo Villaggio. Fermi tutti, live. Se siete in macchina e state parcheggiando, se siete in macchina e state parcheggiando per andare a casa, ma c'è un consiglio, non migliore. Andate a casa. Se siete in autostrada e state correndo, frenate improvvisamente, che c'è Villaggio, frenate all'improvviso. Se siete sulla A4, state correndo a 120, improvvisamente, frenate improvvisamente, vediamo che succede, improvvisamente. Questo è un consiglio invece più sensato da parte mia. Se state per entrare a casa perché vostra moglie vi ha rotti i coglioni per telefono, quando arrivi, fottetevene. Fottetevene. Voglio rimanere a sentire Villaggio la Zanzara. Voglio rimanere a sentire Villaggio la Zanzara. Fottetevene, sbattetevene di vostra moglie. Oppure se siete donne che state tornando a casa per cucinare per i vostri, sbattetevene i coglioni. Lasciate i bambini. Sei un senza valore. Lasciate i bambini lì con le date, con le babysitter. Ma sei un senza valore. Non mi interessa. Dov'è Nino? È sparito? Marco da Modena, dai. Anzi, no, eccolo là, Nino. Sì. Vai, Nino. Allora, senti, io telefono da Palermo e devo dire che condivido appieno la battaglia di Salvini contro l'immigrazione clandestina, perché noi qua in Sicilia siamo sommersi. Ma a parte questo, io volevo dire che l'espressione che ha utilizzato lì la cantante Irene Grandi, io mi farei con mio figlio, è una grandissima stronzata, perché è uno spot degli spacciatori ed è diseducativo. Io faccio l'insegnante e sono orgoglioso di farlo, ma non direi mai a uno dei miei alunni vatti a fare una canna. Io ho 40 anni. No, Irene Grandi ha detto una cosa giustissima, se io vedo mio figlio che si fa una canna, non lo rimprovero, prendo questa canna e mi faccio una canna con lui. Vabbè, che cosa? Sei diventato improvvisamente. No, vabbè, perché è entrato in studio. Sei diventato improvvisamente conservatore. No. Sei diventato improvvisamente. Tutt'altro. No, sono sempre stato conservatore. Diceva a me. Ho 40 anni con mio figlio. Perché se vedo mio figlio che si fa una canna, non solo gliela levo e cerco di spiegargli che un abominio contro se stesso e contro gli altri. Ma poi mi faccio dire chi gliel'ha venduta e gli vado a rompere il culo, a calci nel culo. No, ma tu sempre devi stare un linguaggio sobrio e moderato qui. Tu devi stare molto calmo, caro Nino, devi stare calmo. Innanzitutto tu dovresti prendere di batterie di calci nel culo. Però con uno scarpone. Così quello dopo si fa una pera di eroina la prossima volta, invece di farsi una canna, quello la prossima volta si fa una pera di eroina grossa così, capito? Esempi educativi. Non bisogna dire ai propri figli andatevi a drogare, perché la droga è droga. E la è una droga. Ma non dire stupidaggini, una canna è come bersi un bicchiere di vino, dai, non dire stupidaggini, dai. Un bicchiere di vino, guarda, io insegno materie scientifiche, l'effetto che ha. E beh, allora, la volta che insegni materie scientifiche, che sei il professore che insegna le materie scientifiche? Sì, io insegno materie scientifiche. E beh, allora che vuol dire? No, sì, allora io vorrei sapere quali titoli culturali hai tu e Parenzo per dire che è uguale alla bicchiere. No, ma io vuole da punto di vista sono completamente diversi. Il vino non è una droga. Vabbè, maestro, lasciamo perdere il vino, eccetera. Tu hai detto una cosa, se io scopro mio figlio che si fa una canna, lo prendo a calci in culo. Anzi, com'è che hai detto l'espressione? Hai detto male. Io ho detto gliela levo, gli spiego che è un abominio contro se stesso. Un abominio, e farsi una cannetta un abominio. Perché quando sei in stato di alterazione della realtà, quando sei ubriaco, non devi guidare. Quindi se tu gli dici quello magari guida il motorino. Poi mi faccio dire chi gliel'ha venduta e lo vado a prendere a calci nel culo. Perché uno Stato che si rifiuta di combattere la droga e chi la vende, allora questo non è degno di essere uno Stato. Vabbè. A questo punto dobbiamo essere noi cittadini che ci dobbiamo ribellare. Adesso non è che puoi fare il comizio, amico mio. Aspetta, allora la questione è molto semplice. Io sono partito da un dato fondamentale. Prepariamo la sigla intanto. La signora Irene Grandi ha fatto un'intervista in cui ha detto una cosa semplice: se io trovo mio figlio che si fa una canna, non sto lì a rimproverarlo, a dire eccetera, magari mi faccio una cannetta con lei, con lui, non mi sembra una cosa così drammatica, mi sembra anzi una grande lezione di vita, se vogliamo, una grande lezione di vita, perché non c'è il rimprovero, le cose, facciamoci una canna insieme, poi magari parliamo di cos'è la droga leggera, la droga pesante, eccetera eccetera. Ma è con noi un meraviglioso tutto bianco vestito, anzi no, un po' caffè latte, Paolo Villaggio. Lo introduciamo in questo modo. Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. D'accordo. Parete a vetri. Ma che c'entra la signora Marghi? Barba e bidè. Presto che perdo il tram. Ma perché ti sei fissato con sta canzone? Perché è stupendo, perché l'ascoltavo da ragazzino. Cioè l'ha sentita prima insieme a Villaggio. Buonasera. Buonasera signor Villaggio. È vivo? Come sta? Come sta? La vedo un po' morto Villaggio. Scusi se lo dico. È proprio entusiasta, come dice Ben in casa dietro il vetro. Papà, ha una faccia entusiasta di essere qui Villaggio. Morto, sì, dico la verità. Sì. Ma scusi un attimo, ma l'hanno data morto qualche giorno fa. Sembrava fosse morto lei. Sì, ma difatti era quasi vero. Nel senso che sono io così sottobanco ogni tanto per evitare certi incontri, cioè certe cene. Si avvicina un attimo. A che cosa? Al microfono, signor Villaggio, perché è la radio questa. Sì, ecco, sì, eccolo qua, sì, bene. Com'è siamo radio? A posto. È una radio, signor Villaggio, questa è Radio 24. Ci siamo in diretta sulla radio della Confindustria, Squinzi, Radio 24. Conosce il signor Squinzi, lei? Beh, qui evitiamo. No. Come non conosce no? È la Confindustria. Il padrone. Squinzi è un soprannome. No, non si può dire. Ma è il cognome, dai. Che discorsi sono? Si dice la Squinzia. Si dice la Squinzia. È un'altra cosa quella lì. Basta aggiungere la a Squinzi e diventa Squinzia. Beh, io cambierei argomento, perché questo è minato. Aspetta, approfondiamo un attimo. Vabbè, no, non è minato. No, l'editore. No, lei dice che un errore il nome Squinzi, meglio Squinzia di Squinzi. Ma, non lo so, ma mi sembra che sia anche il caso di meditare su queste cose. Ma assolutamente no, è l'editore, scusa, che meditare su Squinzia, quindi è un soprannome. È il nome, il dottor Squinzi è il capo della Confindustria, l'editore lui. Nostro. Lui è il capo, sì. E la moglie... Ma non lo so la moglie, perché ci deve far licenziare? La moglie dicono già una volta Squinzia. Ci ho fatto chiudere il programma, scusa. La moglie è Squinzia, sì, questa è buona però, devo dire la verità. No. Questo non è male. Cioè lui è Squinzi, la moglie è Squinzi, è vero, sì, è vero. Oggettivamente è così, basta aggiungere là a Squinzi diventa Squinzia, oggettivamente, no? Cioè se uno come la chiama... Ma perché dobbiamo discutere di questo nella RAI? Io non ho capito. So, ma il bello è che Villaggio non conosce Squinzi. No, il capo vabbè, di ma questo... No, è famosissimo. C'è il proprietario del Sassuolo Calcio, per esempio, anche. Beh, questo non lo sapevo. Ma è un signore il Sassuolo, sì, il Sassuolo. Sì, quindi niente a che vedere con la Juventus. No. C'è un grande industriale che ha una piccola squadra. Ma cos'è sto rumore di fondo? Scusa, non lo so, questo rumore... qualcuno ha un cellulare acceso? Lo so, sì, forse. C'è un villaggio, cosa c'è un bypass? Che è che sta proprio acceso? Bypass. No, perché questo rumore che entra dentro. Ma qual è il rumore che sentite? No, sentiamo un rumore. Questa vibrazione di fondo sotto. Una vibrazione, vabbè, lasciamo perdere, non lo so. Senta una cosa, ma Villaggio, ma insomma, lei non è morto, questo è sicuro, no? Lo davano per morto? No, lo davano per morto. Ma che succede ogni volta? Perché esce fuori questa storia che lei è morto? Ecco, perché? Perché? Perché anch'io sono mortale, purtroppo. Allora prima o poi muore. Allora la gente ne approfitta e io lascio... Lascio correre. E devo dire una cosa, che tutti i miei amici più cari, coetanei... Sì? Sono deceduti. Sono morti. Beh, tutti. Questo è vero, tutti. Tutti. Monicelli. Ma Monicelli... Dunque, Fellini, lei potrebbe fare io. No, lo faccio, ma insomma. Non lo facciamo. Essendo rimasto da solo, sì? Sono costretto ogni tanto a barare e far finta di averli raggiunti tutti, perché fa molto piacere la morte di qualcuno. Come ah, sì. A lei fa piacere la morte di qualcuno? Come piacere? No. Però, gli altri fa piacere la morte della gente. Cioè lei le dice le persone aspettano solo che io crepo, così ti possono dire. No, non penso questo. No. Ma come le piacerebbe morire? Crocefisso. Ah, crocefisso. No, beh, questo è un po'. Questo è buono, ci addentriamo in un terreno un po', secondo me, crocefisso, un po' critico, diciamo, un po' blasfemo. Così. Crocefisso. Cioè come lui, sì, come lui. Come buon'anima. Beh, come la buon'anima, sì, Gesù Cristo. Ma lo sa che Toscani ha detto che è un simbolo un po' un simbolo terrificante, un simbolo pornografico, il crocefisso, Oliviero Toscani. Sì, ma non è vero, la morte è terribile. Io ho visto, sì. Ho fatto crocefiggere un mio amico carissimo. Come ha fatto crocefiggere? Ma cosa dice? Sì, dice una vecchia. Bene, mi secca raccontare queste cose. Beh, ti credo. Raccontiamola. Eravamo in Palestina. In Palestina? Sì. Un sacco di anni fa. Sì. Beh, parecchi, sì. E un mio amico, un po' strampalato, dice: io sono Sì. Sono Dio, ha detto. Sì, disse. Disse, sì. Disse sì. Sì. Ma come Dio, hanno detto tutti, E lui dice: no, sono Dio, ho fatto resuscitare Lazzaro, che poi non è vero un cacchio, lo sapete. Beh, adesso questo però. No, già, davvero. Ci abbiamo già tanti nemici, adesso manca il Vaticano. Comunque, è stata una presa per il culo terribile quella di Lazzaro. Ma no, però scusa, è che possiamo mettere in dubbio storie era secolari. Molto apparente, era vabbè, molto... beh, comunque le raccontò questa morti cosa, che apparente. Per lei era una boiata. Secondo lei era una boiata pazzesca. Beh, una boiata, insomma, era un po' incredibile. Un miracolo, un miracolo. Un miracolo. Ecco, diciamo così. Il miracolo andò male. Sì, e sì. Allora Caifa ha detto: questo va eliminato. Come? Hanno chiamato Pilato, il signor Ponzio, un giudice che ha detto: volete. Sì. L'ho visto l'altra sera. All'altra sera. Dove l'ha visto? Invecchiato in una man... sposato un sacco. Dove l'ha visto? A Forum? Dove l'ha visto? No, l'ho visto al cinema. Ah, al cinema. Dormiva, però. Signor Pilato. Pilato se ne è lavato le mani. Beh, gli hanno detto se volevano liberare Barabba oppure Gesù. No, gli hanno chiesto. Barabba, no, erano una quarantina i condannati. Vabbè, alla fine insieme. Alla fine ha deciso lei. Alla fine la decisione è toccata a lei. È toccata a me. E l'ha fatto, e ha detto crocifissione. Crocifissione, ho detto io, ragazzi, ma scherzate? No, non scherziamo affatto. Mi ha salvato fortunatamente. Chi? Lo dico? Sì, beh, sì, ormai sì, diciamo, Berlusconi. Perché? Perché c'è da Berlusconi con lo l'altro? So. Che per senso? Un atto così di bontà. Siamo così al delirio. Di simpatia. Di quasi delirio, ha detto lui no. Lui no. Berlusconi, lui Gesù no. Ho capito. Va bene, ma adesso lasciamo perdere queste cose storiche. No, che beh, storiche, lui io vorrei capire una cosa, ma lei non ha prenotato, cioè lei per esempio non va mai in vacanza. Una vacanzina da qualche parte, a luglio, ma scusa. Sì, ho prenotato. Dove? Ma adesso non lo so, vorrei cambiare idea. Dove vorrebbe andare? Jaffa. Dove? Jaffa. Ma in Israele, a Jaffa? Sì. Vicino a Tel Aviv? O a Gaza? No, a Gaza va. A Gaza? Ma come a Gaza? Ma non si va in vacanza a Gaza però, scusi? No, non si va, ma io avevo prenotato prima, era un posto magnifico, me l'hanno suggerito. Scusi? Gaza, sì. Anche il nome così, Gaza, una Gaza, Gaza ladra, sì. Quelle cose così. E invece adesso mi hanno detto che ha qualche così, dubbio adesso qualche dubbio. Ma no, qualche dubbio, ma qualche certezza e guarda la televisione che no, io vorrei capire una cosa, ma quest'idea per risolvere il conflitto israelo-palestinese lei cosa farebbe? Prenderei la Palestina, sì, e la lascerei sul posto. E d'accordo, invece Israele? Piena di palestinesi, sì. Israele invece convincerei i palestinesi ad andare in un posto molto più ameno. Gli israeliani? Sì. Dove? Jaffa, no. Chiamare Jaffa un posto molto carino, sì, nella valle, quella dei film di Ford, Mountain Valley. Ah, ma ho capito, no. In America. Cioè, ma come fare Israele in America? Si prende un territorio. Il Texas. Texas. Volendo ma come Texas. Vuol dire fare Israele in Texas? Lei ce le vorrebbe trasferire Israele in Texas? Come mancava la follia. Se non si corre più il rischio di una guerra mondiale, perché purtroppo vede l'islamismo è una religione che è ancora giovane rispetto alla nostra e quindi piuttosto violenta, quindi c'è il pericolo di una terza guerra mondiale. Non si capisce mai se dice sul serio o se no, fa questa cosa, o sei ironico. Questa cosa è seria, questa cosa è seria. Questa cosa è seria. Allora trasferire Israele in Texas, cioè fare lo stato di Israele ma non in dico Texas. Dove vogliono loro. Però lei dice in Texas. Io dico in Texas perché è un posto meraviglioso. Là, ampio, grandi spazi. E poi non ci sono gli arabi intorno che lattano razzi, perché quella cosa dei razzi è una rottura di palle. Eh beh, abbastanza, bravo. Invece ogni giorno suona la sirena e arrivano due razzi. E allora portiamoli in Texas. Portiamoli in Texas. Lo sa che cosa diceva il signor Hitler? Lei conosce Hitler, no? Se lo ricorda Hitler, no? Hitler, il capo del nazismo. Bianchino. Quello che quel tedesco un po' austriaco col baffetto, vegetariano per giunta. Vegetariano, ma era oltretutto un po' svitato. Beh, un po', diciamo, 6 milioni di volte svitato, diciamo. Vabbè, spegneva le sigarette sul seno di Eva Braun. Ma chi l'ha detta questa? Questo cosa? Non è, sì, sì, c'è scritto nei libri di storia. Certo. Sì, è vero. Guarda, io Eva Braun l'ho conosciuta, l'ho frequentata. Ma come Eva Braun? Dai, villaggio, su. Ma chi ha conosciuto Eva Braun? Ha conosciuto De André, lei, di cui ha scritto le canzoni. Ma sì, ma... però io ho spento anche delle sigarette su chi? Su Fabrizio, una spalla la mattina. Su De Andrea. No, scusi un attimo, no, Hitler diceva, signor Hitler, ma perché diceva ma perché hai il gusto di sto schifo no, sempre di trasferire Hitler, Hamas, gli ebrei in Madagascar, in Africa. È una porcheria. Sì, vabbè, ma quella è una sciocchezza. Beh, capito, lei li vuole trasferire in Texas, quello vuole trasferire. Ma Texas è molto meglio, dai. Beh, sì, dell'Africa, su questo non c'è dubbio. Ma molto meglio, ma per carità. Io trovo che questa donna, Eva Braun, ancora così, perché si è fissato con Eva Braun? Un programma di attualità, ma questo. Questa è stata straordinaria. Quando lui è andato nella merda più completa, sono arrivati i russi a Berlino, per fortuna lei ha preso una motocicletta col sidecar, ha attraversato le linee americane, quelle russe, arriva alla cancelleria e sotto c'è lui, lui vede lei e il cane, si butta ad abbracciare il cane, pensa a una cosa incredibile. E lei dice, e io un momento dopo, dice, prima devo abbracciare lui. Dopodiché le ha detto, fra un'ora sei morta. Le ricostruzioni storiche. Beh, no, beh. Senta, ma che ne pensa lei di Papa Bergoglio, del signor Bergoglio? Primo che è argentino, che parla. Vabbè, quello non c'è dubbio. Vabbè, non c'è dubbio. Ma le piace però come Papa, no? No, dice delle banalità. No, no, non dice. Dice. È un clown, un mezzo clown, su. No, dice... ma è il Santo Padre, non è un mezzo clown. Io lo definisco un mezzo clown. Ma è un Santo grande Padre, uomo di spettacolo, scusa, un grande uomo di spettacolo. Ma che spettacolo? È il capo della Chiesa. No, no, no, no, non è un uomo di spettacolo. Lui veramente è un uomo abbastanza pericoloso. Perché, perché è pericoloso? Come pericoloso? Perché non crede in Dio. Ma come? Ma villaggio, non crede in Dio. Ma come fa a non credere in Dio il capo? Anzi, perché? Ma perché? Perché è un uomo troppo colto. Cioè sembra molto colto, insomma, anche se parla ancora accento. Cioè le dice che un uomo colto non può credere in Dio? Abitualmente no. Per esempio Margherita Hacks, non so se morta poverina, purtroppo morta poverina, eccetera. Forse è stata ammazzata, non si sa. Margherita Hacks, un giorno la incontro in una tavola rotonda e io dico, scusi Margherita, lei che è una grande astrofisica, una scienziata eccezionale, astrofisica, la grande astrofisica vivente, ho detto, non è vero? E lei mi dice, che domanda mi vuol fare? E dico, lei che idea del creatore? Madonna mia, ragazzi, ho sbalzata in piedi. E ho detto, mi fate tutte le solite domande del cazzo. No. Non può smentire. Voi sapete almeno qual è la concezione che abbiamo noi astrofisici dell'universo attuale? L'universo è formato non dalla nostra galassia, la Via Lattea, ma da miliardi, urlava come una pazza. Da miliardi di galassie che si allontanano l'un dall'altro, ha detto, alla velocità della luce. E io posso pensare a questa baggianata? Io ho detto, mi ha morsicato anche la spalla. Ma come morsicato la spalla? Sì, ma come quel calciatore, Suarez. Ma che morsicato la spalla? Lui ha cercato di mordermi la spalla. Detto, è una scena incredibile. L'astrofisica, che le morde la spalla. Insomma, io ma lei crede, per esempio, non ne so, Maria, queste cose qua? Maria. Beh, lei crede un po' in Dio, no? Immagino, in Gesù. Pronto? Pronto? È qui in studio, dica qualcosa, è la radio, non ci possono essere silenzi, pause. Ma penso che sia la più grande bugia della storia che lui abbia avuto dei poteri. Per esempio, lui ha fatto una stronzata. Chi? No, non si può dire. Lazzaro, vi ricordate Lazzaro? Come buon'anima? La risurrezione, Lazzaro, sì. Lui stava per ereditare. Lazzaro era un suo lontano parente. E ha fatto una gran festa, ha bruciato la casa e ha detto, è morto lo zio Lazzaro, adesso eredito tutto. Arriva al posto dove c'era il funerale e fa il miracolo, risuscita. Quindi ha fregato sostanzialmente Si è fregato se stesso. Se stesso. È stata una cosa terrificante. Dovrebbe fare la Bibbia secondo villaggio, secondo me. Senta, ma che ne pensa lei del fatto che è pieno, per esempio, nelle stazioni italiane pare che sia pieno di Rom? No, pieno di Rom che rompono le balle. Non ci sono troppi Rom in Italia? Sì, c'era una soluzione. Qual è la soluzione? Sempre Hitler. Vabbè, però non spongo questo caso. Hai capito? Sì, qual è la soluzione? La soluzione di Hitler era di bruciarli vivi. Purtroppo sì, l'ha fatto. Come purtroppo l'ha fatto. E quindi anche voi che fate la radio siete a rischio, a mio avviso. No, ma scusi, perché quella di Hitler era una buona soluzione, quella di Hitler. No, ma no, ma bruciare alla radio due ragazzi così carini, poveri, no? Siete poveri. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't. Eccoci qui, ultimi minuti con Paolo Villaggio, nostro ospite qui in studio a Roma. Caro Villaggio, lei sa che c'è un sindaco leghista a Padova, Bitonci, che vuole imporre il crocefisso in tutti gli uffici pubblici. Che ne pensa di questa cosa? Pazzesco. Ma se il crocefisso è vero, cioè come è uno zingaro, metti. Ma ti ha detto che l'Italia è piena di zingari fastidiosi. No, dicono. Beh, si potrebbe crocifiggere veramente questi zingari e metterli nelle classi elementari. Questo non lo. C'è un leghista. Le piacciono i leghisti? Ma dai, quelli della Lega. Molto. Molto. Non è vero, dai, non è possibile. Veramente. Sì, dai. Questo le Salvini le piace. Salvini, l'ha visto in televisione ogni tanto. Dicono chi è Salvini? Il leader della Lega. Non sa niente, dai. È il leader della Lega. Salvini. Quello che vuole mandare via tutti gli immigrati. Non vuole che. Non vuole intercettare le barche. È il compagno di banco. Ma chi di banco? Mio, ma facciamo domande rapide. La Germania, lei le ha fatto piacere che ha vinto il mondiale la Germania? Molto. Ah, sì. Antitaliano. Il motivo, no, perché è una squadra europea. Ah, ecco. Ah. Questi sudamericani hanno rotto i coglioni alla fine. No, non hanno rotto i coglioni. Il Brasile sembrava che dovesse sconfiggere, che sì, è stata la più grande tragedia di tutto il mondo. Io ho goduto come un pazzo, devo dire la verità. Ma è un animo speciale, però, indubbiamente. A me è dispiaciuto. Io ho goduto come un pazzo. Ma lei che fa tutto il giorno, ad esempio, sul villaggio? Ecco, questa domanda. È interessante. Cosa fa tutto il giorno? Dunque, al mattino mi sveglio alle 6. Alle 6. Sì. Una rottura di palle. Sì, pazzesco. Non c'è nessuno. Allora esco, faccio due passi. Da solo, sì. Vado a comprare del pane. Sì. Ma l'avrà una domestica, sicuro avrà. Sì, ma che non si sveglia neppure bastonata. Perché il bastone alla domestica. Sì. Ah, ho capito. Purtroppo sì. Sì, sì. E allora poi? E poi che fa? Poi accendo la televisione. Alle 7. Alle 7:30 metti. Le morning news. E mi addormento quasi immediatamente. Soprattutto perché è un programma molto divertente. Dico, questo è un programma da ridere, da ridere. Tum. Si sveglia quando, scusi? Mezzogiorno. Riesco. Sì. Poi? Torno a comprare del pane. Ma ancora? Non c'è più. C'è, è una mania. Poi telefono. Sì. A chi? Ecco, appunto, non so i numeri. Noi ogni tanto la chiamiamo, ad esempio. Voi avete un numero ma di noi telefono. La chiamiamo, io intanto la chiamo, dico Paolo, allora hai voglia di venire? No, non mi rompo i coglioni, non c'ho voglia stasera, no, non ho voglia. Detto no, Roberto ha detto stasera non c'ho voglia di venire, scusami, mi dici, no, guarda, davvero? Stasera. Ogni tanto mi dici così, dico, dai, voglia di venire. No. Vabbè, poi arriviamo all'ora di pranzo, che succede? Che mangi? All'ora di pranzo, mangio da solo. Sì. Perché io mangio alle 2, alle 3 del pomeriggio. Sì. Ha già mangiato tutti, la domestica è andata a dormire. Sì. E io sono fottuto, riesco a prendere il pane, ancora. È già chiuso. Credo. Allora mi sale un'ansia incredibile, dico la verità. E allora in quei momenti diffondo la notizia di essere morto. Questo spiega tutto. Ha capito. Certo. Tutto. Poi torna a casa al pomeriggio. Torna a casa e non mi riconoscono. Chi è questo? Fingono, non lo so. La domestica non mi riconosce. La ignorano. Non mi ignorano, mi trattano veramente male. Male come se fossi uno zingaro. Ecco, la verità. Ma lei al suo funerale chi vuole? Benigni? Sì. Che non verrà. Poi? No, verrà sicuro, sì. Sicuro. Beh, ha fatto la voce della luna con lei. Poi? Perché quelli importanti sono morti tutti. Cioè chi sono quelli che lei considera? Fellini, De André? Fellini, De André. Vabbè, comunque lei vuole, primo Benigni. Tognazzi, Policelli. Dei viventi, Benigni. Sì. Rutelli, che c'entra Rutelli, scusi? Perché me l'ha promesso. Ah, così ha detto. Beh, sì. Non è poi? Carino però da dire. Poi uno molto importante, non lo suggerisco a lei, chi potrebbe essere? E che ne so, Berlusconi mi farebbe comodo. Ah, Berlusconi, una volta che è morto, uno è morto. Ma no, mi farebbe comodo averlo, dirlo. Ah, sì. Dirlo. Perché io mando inviti, no? Sì, come invito, dice, venite al mio funerale. Invito per il funerale, sì, invito per il funerale. Rutelli, Berlusconi, abbiamo detto Benigni, Bruno Vespa? No, Bruno Vespa. No, se viene però Renzi. Beh, Renzi sarebbe magnifico, buono. Sì. Renzi, chi dovrebbe leggere la prolusione funebre, secondo te? Cioè chi mai, non so. Benigni perché è il più divertente, improvviso. Ma lei alla fine, al di là del crocifisso, le piacerebbe in realtà, le piacerebbe stasera andare a casa e crepare, morire? No, ma perché gli devi dire così? No, addormentarsi e poi non risvegliarsi. Ci penso un attimo. Sì, ti credo, scusa. Per ora no. Ti credo. Per ora no. Però mi sono preso un po' di tempo. Un po' di io tempo. Io ho rinviato questa eventuale mancanza a 15 anni. 15 anni ancora? Beh, sì, ma che fa 15 anni? Ogni giorno esce da casa, prende il pane, lo tutto, so, una lo cosa so. Ripetitiva. No, ma cambio adesso. Cambio attività, vado in un altro quartiere dove sì. c'è una panetteria che funziona sì. tutta la notte. Sì. Quindi non c'ha problemi che è chiuso. Certo, chiaro, chiaro. Vabbè, comunque, mi sa che Berlusconi ha più possibilità di partire prima di lei. Perché gliel'ha detto? E magari va in galera adesso questa cosa di Rubi. Ma cosa... si muore, dice, in galera. In galera è complicato poi per Berlusconi. Se va in galera, dovesse andare in galera. Ma lui poi non ha solo Rubi, anche... poi c'ha Bari, lei sa tutto. C'ha Bari, un sacco di roba. Capito lo che... conosce bene lei. Capito le donne, frequentare le donne, che cosa comporta? Beh, a me non è mai capitato. Cioè, lei è sempre stato, ha avuto sempre la solita moglie? No, mai avuto. Ma non è vero, ma, ma come mai ha avuto un rapporto? Sì, ecco, lei non ha mai fatto cosa... l'amore. Ha fatto dei figli. Tu, lei da quanti anni ha non ha un rapporto sessuale? Non l'ho mai avuto. Ma non l'ho mai avuto. Non è vero. Ma no, ma adesso lo dico sul serio. Adesso ha avuto anche un figlio. Ma c'è chi più figli? Ma non c'entra, i figli li ho adottati. Ah. Saranno contenti di ascoltare tutto questo alla radio? Ma sì, molto, stasera, perché sì. hanno paura anche di essere veramente figli miei. Questa rivelazione forse li rallegra. Sì. E io non ho mai avuto la possibilità anche di avere un uomo come fidanzato. Mai, mai. Ho tentato. Ma le piacerebbe per esempio che ci fossero i matrimoni gay o no? Oppure secondo lei è una stortura? Adesso parlando seriamente, sì. I matrimoni gay è una cosa innaturale secondo lei oppure una cosa... No, è un bisogno legale anche perché non vedo perché... Ma due uomini che si baciano le fanno un po' effetto, se li vede? Fanno un po' effetto, sì. Sì. Io ho baciato una volta un uomo, ho vomitato anche. È vero. Sì, era uno zingaro però. Ecco, sempre il solito zingaro che fa felice Salvini, la legna. Lo so perché. Però scusi, ma due uomini che si baciano, secondo lei... È un uomo moderno, villaggio, un uomo di sinistra, un dai. Moderno, dai. Meno. Fa schifo no vedere due uomini. Ma gli aliti, avete idea di cosa sono gli aliti di certi muratori? Beh, ma in generale anche di un commercialista, però non solo ma no, muratori. Guardi che certi muratori, adesso sì. io... Sì. Lei provi un giorno ad andare in un cantiere. Che succede? Sì. Buongiorno. Dice, c'è un muratore, dice, disposto... Hanno degli aliti che ci sentono a 40 metri. Adesso poveri muratori, quelli fanno un mestiere durissimo. Lo so, ma vabbè, ma però lavarsi i denti ogni tanto. Ma anche qualche commercialista magari ce l'ha la fiatella, scusi, mica sono tutti muratori. Non ho idea. Ne ho conosciuto uno, non ho fatto il nome. A 40 metri lo senti. Senta, ma prima di sapere, quanto ha guadagnato nella sua vita alla fine? Ma non lo sa, ha perso tutto. Ma che ha perso tutto? Sì, ho perso tutto, sì. Ha perso un sacco al gioco, di soldi. No? I figli, le cose, sì, tutto, ma ha rubato tutto. Tutto. Con un'onestà, una gratitudine io. Tutto. Non c'è niente in banca. Secondo quanto lei c'ha? Adesso sto guardando in banca nostra... quanto c'ha lei? Sì. Adesso in banca. 1500 euro. 1500 euro. Euro. Vabbè. Poco. E come si compra sempre il pane per forza? È ridotto malissimo, molto male. Non male, ma insomma, è triste la cosa. Triste, molto triste. È molto triste. Difatti, se siete d'accordo, invece che fare la radio, che oltretutto mi sembra che voi siete poveri, insomma. Sì, poveri. Beh, sì, non ricchissimi, certo. Ma sì. Se adesso, sinceramente, io... vi do un consiglio. Cambiate mestiere. Cambiamo mestiere. Se questo lo fate male. Male. Non male, nel senso. Sì, ho capito. Non è roba nostra. Ci arrabattiamo. Hai capito? Ci arrabattiamo. Grazie, molto. Paolo Villaggio. A presto. Grazie, Villaggio. Ciao, ma ciao, c'è la sigla ciao, ancora. Ciao. No. Andiamo con Francesco da Trani. Francesco. Sì, ciao Giuseppe. Dai, dimmi Francesco, dimmi. Ok, senti, volevo chiedere una cosa sia a te che a Parenzo. Volevo parlare della provocazione di Sgarbi, che voi poi avete fatto vostra quasi, quella di praticamente trasferire la Sicilia in Israele e viceversa, non ho capito bene. È solo una provocazione o voi siete d'accordo? Ma no, è una provocazione, è evidente che è una provocazione la roba della Sicilia. Il problema non è questo, il problema è che io ho detto, siccome da 50 anni questa cosa non si risolve, allora diamo spazio anche alle provocazioni. È evidente che è una provocazione, non può essere una cosa vera, non si può pensare che si possa trasferire Israele lì. Cioè, non penso a una follia del genere. Però oggettivamente ma cosa non si risolve da 50 anni? Vabbè, ma lasciamo perdere adesso le cause, è una questione che non si risolve da tantissimi anni. Per cui la Sicilia o Israele? Ma no, tu tutte e due, diciamo tutte e due. Sono due cose un po' diverse comunque. Ma scusate, tu hai parlato di padrini, sembra quasi che la Sicilia se dovesse trasferirsi in Israele facciamo tabula rasa dei padrini. Il problema è che la mafia non sono i padrini, forse siete ma sì, d'accordo, ma era un modo di dire, certo, dai, su. Lo so, però sai queste cose un po' sfondo razzistiche ogni volta. Ma quale razzista? Ma io sono pugliese, non me ne frega un cavolo dalla Sicilia, però sinceramente ogni ma era una provocazione. La zanzara è quell'odioso insetto, Samantha Capizzoli, finire la notte perché affonda il becco su di me. Ai, ai. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Cato. Eccola qua. È con noi Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica romana. Buonasera, buonasera. Molto bene. Eccoci qui, da dov'è anche lei? Da una caverna? Da dove chiama? Da dove risponde? Pronto? Pronto? Eccoci. Eccoci qui, allora. Mi dà una definizione dell'intervento di Vattimo? Allora, innanzitutto, lei intende fare qualcosa in concreto, sporgere qualche denuncia, fare qualche atto formale rispetto a queste frasi pronunciate dal professore emerito in un'università? Beh, emerito un copo un corno. Vattimo? Pronto? Sì, Pacifici, eccoci, mi sente? Fermate. Eccoci qui. Non ha sentito niente. Eccoci qua, allora. Allora, come intende reagire alle parole di Vattimo? Vuole denunciarlo? Ma io credo che ogni opzione è sulla carta. Il problema di fondo qui è analizzare diversi aspetti di quell'intervento delirante di cui ieri si è reso protagonista. Esistono diversi modi e modi anche di poter articolare la difesa della causa palestinese. Certamente non lo si può fare incitando all'odio e soprattutto indicando gli ebrei, in questo caso gli ebrei italiani, come il punto di riferimento dove scaricare tutte le frustrazioni di quelle vicende della guerra. Mette nel mirino gli ebrei italiani. Vabbè, dicendo che questo lo dico. Ha detto una cosa en passant sugli ebrei italiani, ma al di là di questo, secondo lei cioè, dichiarare che gli ebrei italiani erano sostenitori del fascismo è non solo storicamente falso, ma riesce a trasmettere quell'immagine in cui molti dei filo palestinesi, o meglio di quelli che tentano di diventare l'odio antebraico, raccontano che la Shoah se la sono creata gli ebrei per costruire lo Stato di Israele. Cioè, dico, questo è uno degli argomenti. Va bene, Pacifici, però io la cosa che voglio sapere da lei è molto semplice. Secondo lei ci sono gli estremi per denunciare Vattimo per istigazione all'odio razziale? No, ci sono prima di tutto gli estremi, io non faccio l'avvocato, ci sono gli estremi per dire che intanto è un ignorante, perché se probabilmente leggesse meglio quali sono i ruoli all'interno delle nostre istituzioni, visto che mi ha chiamato in causa, io faccio il presidente della Comunità Ebraica di Roma, forse dimentica che il presidente degli ebrei italiani è l'avvocato Renzo Gattegna, il quale mi sembra che già si è espresso sul tema con un comunicato questa mattina. Ma al di là di questo sì, ci sono gli estremi, perché quando nel 1982 si chiedeva agli ebrei di prendere posizione sul conflitto, o meglio o peggio, di prendere le distanze da quello che stava facendo Israele, abbiamo avuto un morto. Allora noi quella lezione ci è passata una volta, e quindi crediamo che vanno fermati prima questi nipotini di Hitler. Cioè, lei è uno di questi. Fa riferimento alla morte del piccolo Gadi Tashé nella comunità ebraica di Roma, vittima di un attentato terroristico palestinese. Vabbè, lei definisce Pacifici una specie di nipotino di Hitler. È curioso il fatto che lui definisca invece lo Stato di Israele uno Stato peggio di Hitler. Dice che si comporta peggio di Hitler quando attua una specie di genocidio nei confronti dei palestinesi. Però io lei sta dicendo una proposta, Vattimo. Ma dovrebbe farsi visitare da uno psichiatra, secondo lei? A visitare lo Stato di Israele, magari perché non va a Tel Aviv a vedere come funziona e si vive nei condomini arabi ed israeliani insieme, a Jaffa, a Haifa? Perché gli ebrei che vivono a Hebron sono 400, quindi sotto l'autorità nazionale palestinese, debbono vivere circondati dal filo spinato per paura e difesi dall'esercito per paura che possano essere massacrati, come per esempio hanno massacrato i tre ragazzi? Perché Vattimo non va a Gaza a vedere qual è la condizione delle donne, il rispetto dei diritti civili? Soprattutto aggiungo, perché non va a vedere come vengono trattati gli omosessuali, e non solo a Gaza ma in molti paesi in cui vi è quel tipo di ideologia? Ma lui dice che vuole... Oggi per esempio, sì, nonostante le proteste del mondo dei religiosi, come ci sono qui del mondo della Chiesa, è il posto dove il mondo degli omosessuali, per esempio, cosa accadrebbe? Scusi Pacifici, cosa accadrebbe a Battimo se andasse a manifestare per i diritti degli omosessuali a Gaza? Lo brucerebbero vivo? Non uscirebbe vivo. Non uscirebbe vivo, perché chiaro, non è permesso questo, non è permesso dalla Sharia, non è permesso, così come non è. Allora le faccio un'ultima cosa, io voglio capire, domani lei ha indetto una manifestazione, deposita una denuncia nei confronti di Battimo per istigazione all'odio razziale? Questo lo valuteremo. Questo lo dovranno decidere gli avvocati, ma credo che questo possa essere uno dei presupposti utilizzando la legge Mancino. Va bene. Per l'incitamento all'odio razziale. Grazie Pacifici. Grazie. Allora andiamo. Grazie. Andiamo a Sergio Torino. Buonasera, dica. Io sono Sergio, chiamo da Torino e mi sono sentito nell'83 di essere Cristo II. Cioè, scusi, non ho capito bene, Sergio. Allora, vuole un matto al giorno. Adesso non inizi Parenzo subito a chiamare l'ambulanza perché appunto. No, per carità. L'ambulanza è troppo poco. Ma figuriamoci. È troppo poco pagato, l'ambulanza. Un esercito di infermieri ci vogliono. Essere Cristo II il nome sia. Poi, per carità. Speriamo. Cioè, lei nell'83 si è sentito di essere Cristo II. Questo io dice. Me lo sento ancora oggi. Lei pensa ancora oggi di essere Cristo II. Certo. Senta, sì, però qui le ambulanze. Sì, ma le ambulanze non servono. Più del Papa. Io voglio il bene comune come il Papa, più del Papa. Ha capito che lei cita sempre Papa Bergoglio, Papa Francesco? Ha capito? Ho capito, io ma il bene, no, più è il del caldo. Papa come il Papa. No, scusi, okay? È il caldo, è il caldo. No, non ho capito, no, ma no, qui no, sono tranquillo e sereno, non sono caldo, Parenzo, tu stai sereno. No, è il io caldo, sereno, quando c'è il caldo si sereno. Manifestano questi fenomeni un po' no, particolari. No, questi fenomeni, Parenzo, tu non ti preoccupare. Questo pensa di bene. Sì. Anche Gesù Cristo è esistito, Gesù Cristo. Ma voglio capire, risponde alla domanda. Le cose sono due: o è il caldo o si è fatto di qualche cosa di veramente pericoloso. No, perché io non fumo sigarette, non ho mai fumato una sigaretta, non ho mai preso un caffè, non ho mai preso un caffè in vita mia, non sono caldo. Scusa, però prende il crack evidentemente, perché Cristo II si fa di crack. No, invece no, Parenzo, è proprio da intervenire, perché questa volta ti sbagli di grosso. No, ma scusi, Gesù II, Sergio, scusami un attimo. No, Sergio. Perché Sergio? Chiamalo Gesù II. No, scusi, Cristo II. Signor Cristo II. Perché lo chiami Sergio? Signor Cristo II. Lascia PlayStation 1, c'è stato il Galaxy S1, il Galaxy S2, PlayStation 1, PlayStation 2, c'è stato Gesù Cristo e c'è Gesù Cristo II. Certo, certo. Che sarebbe lei. Okay? Certo, che sarebbe lei. Sì, chiaro. Sì, sono io, sì. Sì, ma ancora allora, chi è che l'ha? Che Cruciani dice sempre. Allora sì, sono Gesù Cristo II. Allora. Ma lei non è Gesù Cristo II, lei è completamente pazzo. Ti devi dare ragione, impazzisce se no. Lo dici tu, Cruciani. No, ma lei ha ragione. Va bene. Tu, Cruciani, ti posso dar del tu. Sì, dammi del tu. Beh, è un onore che Cristo II. Beh, già fa così coi matti. Ci dovrebbe essere qualcuno che lo deve fare. Certo. Lo sto facendo io, speriamo in bene. Certo, bene. Grazie anzi. Va bene, Sergio, io direi che un'infiltrazione di qualcosa. Beh, come minimo. Alle 20:23, fra una decina di. Ma io guarda che l'ho già detto a Radio 105, l'ho detto anche a RTL, non l'ho detto solo a Radio 24. Ah, che onore questo, Radio 105 bene. Di essere Cristo II, mi ha già chiamato anche Elisabetta Canalis. Ah, beh. Di Sanremo mi ha già chiamato anche Elisabetta Canalis. Ah, beh, se allora guardi. Interessare, Parenzo, visto che tu ti senti tanto il crack e questo, chiama l'ambulanza, ho già pagato con l'ambulanza. Se permetti, ho già pagato. No, ma bisogna ringraziare il sistema sanitario nazionale qui. Perché dici? Perché queste nuove terapie gli fanno fare una ora d'aria e nel protocollo sanitario c'è il telefonare alla zanzara, quindi è una convenzione, è una forma di cura, di terapia fatta in accordo con l'AIFA, con l'istituto che si occupa di medicina, sì, eccetera. Sì, Parenzo, sì, sì. Bravo, adesso torna in corsia, però va. Torna in corsia, va. Dai. Adesso arrivano due persone vestite di bianco. Stia sereno lei, però. Sono tutte per lei, non è carnevale, Gesù, mi fai parlare, Parenzo? Sì, Cristo secondo, scusami, Cristo secondo. Prego. Scusi, Cristo secondo, ma secondo, speriamo in bene. Ma cosa fa Cristo secondo? Ci doveva essere qualcuno, anche Linus di Radio DJ l'ha detto. Non c'è stato mai come adesso. Si aggrava, col passare del tempo. Del nome sia, e il nome sia è arrivato. Vabbè, ma scusi, che cosa fa Cristo secondo durante il giorno? Chiedi? Durante il giorno, io Cristo lavoro, secondo. Lavoro. Ah, ma Cristo secondo non lavora, però, scusi. Cristo secondo non dovrebbe. Io invece lavoro. Lui lavora. Gesù Cristo lavoro e poi sono anche Cristo secondo. Sì, lei lavora e anche Cristo secondo. Speriamo in bene, perché me lo dovete negare? No, non le neghiamo niente, infatti, per carità. Non, ci devo credere, non, essere non, non è una cosa positiva. Le do un bacio sulla fronte. Non è una cosa positiva, scusi, Parenzo, scusi, Cruciato. Vabbè, ma questo è completamente cretino, vuole fare l'esibizionista qui alla radio. Cioè, non di che stiamo. Faccio l'esibizionista. Ma vuole fare l'esibizionista, lei è un povero cretino. Non ero un esibizionista. No, ma infatti. Ho sofferto nella vita. Ah, quello sicuro. Non soffrire per questo, vado avanti. Che lei soffra nella vita, guardi, questa è l'unica certezza che mi viene fuori dalla telefonata. Roberto da Milano. C'è grazie. Da chiedersi come mai questi chiamano Roberto. Solo qui in Roberto questa trasmissione. Milano, questo dai. C'è un po' da domandarselo, secondo me, perché in altre trasmissioni non chiamano, ad esempio. Questa è una. Domandatelo anche tu, per esempio. E io me lo domando ogni giorno. Anche tu. Perché non chiamo da signor Minoli, ad esempio, questi pazzi? No, chiamano tutti qui. Non chiama nessuno al signor Minoli. Perché non chiamano in continuazione? Che chiamano a fare al signor Minoli? Chiamano. Perché non chiama da signor Barisoni, ad esempio? Ma Roberto, dai. Là perché non ci sono telefonate. Roberto da Milano, sì. Pronto? Dimmi, Roberto. Ecco, allora, innanzitutto un grazie all'Acuto Villaggio. Che ha sintetizzato in due battute tutto il problema israelo-palestinese. Cioè portare Israele voi, in Texas. Voi non avete capito, forse lui parlava di crocifissione, sì. Di cui sono stati autori gli stessi autori dell'omicidio di oggi. Villaggio è un linguaggio paradossale, come lei sa. Vabbè, poi... ma tu forse non l'hai capito, Parenzo. No, proprio perché l'ho capito invece, ci ho riso. Ecco, lei mi pare non l'abbia capito. No, la crocifissione, perché tu sei antistorico, Parenzo. Ah. La crocifissione... è un atto degli stessi signori di quelli dei romani. I romani fecero la crocifissione. Insomma, che discorsi fanno? Andiamo sulla storia. Ma questo non è matto. È mica il Sinedrio. Vabbè, Roberto, lei mi sembra dalla parte di Vattimo, no? Giusto? No, io non è così. No, a parte che se volete buttarmi delle bombe, buttatemene pure. Però la Palestina è sempre stata palestinese. Protettorato inglese ma palestinese, che si è ben guardata alla fine del conflitto di portarli a casa loro o in America. E allora? Ha preferito portarli in Palestina. Sì. Vabbè, allora, ma questo è quello dobbiamo farci dare allora? la storia allora? Da questo qui. Non ho allora? No, da questo qui, innanzitutto, io non. Da questo qui. Sta dicendo delle cose totalmente folli. Non è storia questa. Tu sei antistorico, la storia dice questo. Sì. Innanzitutto bisogna diversificare Israele con tutto il popolo ebraico. Ma Pacifici stasera ha dato l'esempio che non è così, si è unificato il popolo ebreo. Fammi sentire Massimo, bene, lo sai che mi sono rotto i coglioni ci di questa cosa. Dopo due giorni di Vattimo, un giorno e mezzo di Vattimo, cioè mi sono fatto due palle così con questa vicenda. Voglio chiudere per sempre domani con la cosa di Vattimo che uscirà sui giornali. Mi sono rotto i coglioni, Massimo da Prato. Ma basta, tanto dicono tutti la stessa cosa. Non c'è più. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. E perché? Dunque, perché? Perché il prossimo anno chiaramente pagheremo tutti più tasse raccolte a rifiuti. Beh, questo è uno dei top, cioè, dei top assoluti. Tema economico, infatti, è riguarda anche il tema della radio. Io vorrei parlare di puttane. Sì, così il telefono. Questo è, così. Io vorrei tatuarmi questa cosa. Vorrei parlare di puttane. Posso tatuarmi? No, perché non mi piacciono i tatuaggi alla fine. L'arpa. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. E perché? Eccolo qua. Io esco. Dove vai? Allora, ragazzi, però oggi abbiamo tralasciato. È vero, c'era Villaggio, eccetera, che era piuttosto moscino, diciamo la verità. Non era al massimo della forma. Comunque, va bene. E, c'era Giletti, eccetera. La fidanzata di Allegri, la fidanzata del signor Massimiliano, che è diventato oggi allenatore della Juventus, sì. Cioè la squadra più seguita in Italia, sì. Moltissime delle persone che ci stanno seguendo tifano per la Juventus, sì. La finanziaria scriveva fino a pochi mesi fa, va. Scriveva ridicoli, Juve merda, vabbè, ladri. Poi adesso l'account è stato cancellato. Beh, il signor Allegri non avrà vita facile in queste settimane. In queste settimane, un'altra questione è quello che ha detto Irene Grandi. Irene Grandi, in un'intervista, ha detto: se becco mio figlio a farsi una canna, questo l'ho già detto, me la faccio con lui, è naturale. La marijuana non è come le altre droghe pesanti. Io faccio differenze tra le due cose. Ma io non voglio capire qual è il problema di questo, di quello che ha detto Irene Grandi. Ha detto una cosa logica: se vede il figlio che si fa una canna, non lo rimprovera, non lo piglia bastonate, eccetera. Se la fa con lui. Poi magari parlano della droga, eccetera, eccetera. Mi pare una cosa da appoggiare al 100%. Invece ricevo telefonate di gente incazzata, di gente avvelenata. Invece di prendere il bastone nodoso, certo. Vabbè, perché tu sei diventato moralista, capito? No, ho detto invece. Sei diventato moralista, sei diventato perbenista. Tutt'altro, ho detto invece di prendere il bastone nodoso. Ti sei dimenticato del momento in cui ti facevi le canne a casa, le cannette con la tua compagnuccia? Le cannette a casa. Ci facciamo, rotoliamo una cannetta. Ma io me la sono fatta. Rotoliamo una cannetta a casa la sera. Ma te l'ho detto io che ogni tanto mi facevo delle canne. L'ho visto qualche volta. Ma che sei, la Digos? Ma che sei, la polizia? Ti voglio raccontare un episodio. Ma che scemo. Ti voglio raccontare un episodio. Ma ho detto che una sera sono uscito. Ma non che raccontare episodi di vita privata, perché voglio raccontare un episodio, perché tu oggi mi hai attaccato su una cosa. Ti voglio raccontare. No, tra l'altro, scusami un secondo, perché io sono arrivato qui da Nettuno, tranquillamente. Dimmi. La prima cosa che mi hai fatto vedere, anziché discutere della scaletta, delle cose, è stata la foto di una signorina, certo, che hai sul telefono, e mi hai detto: ah, questa ragazza, questa foto. Calma! Adesso fai calma con le manine, fai! Sei sotto ricatto, amico mio! Messaggio per Bisignani. Sei sotto ricatto, amico mio! Abbiamo i dossier! Abbiamo le foto! Beh, fatto vedere la foto, mi hai fatto vedere bella la foto, e mi hai detto: no, due punti. Ah, adesso fai. No, cosa ti ho detto? No. Sui carboni ardenti, sui carboni. Sei uno strozzo. Mi hai detto, sono andato a farmi un weekend. No, ho detto, sono andato a Trieste. No, ora racconto io. Ora è finita. Ora fai la fine di ti stai schiantando come la Concordia, amico mio. Aspetta, fai l'inchino. No, non abbiamo nessuno collegato. Finita la trasmissione. Chiusa la Claire. No. Racconto tutto quello che hai fatto a Trieste. No. Vantandoti. No, facendomi vedere. Sì. No. Facendomi vedere la foto e dicendo: sai, è la ragazza della sciarpa, quella per cui ci hai sfrangiato le scatole per mesi. Ho dicendo che ho passato un bellissimo weekend. No, hai raccontato i dettagli di quel weekend. Siamo al top, ragazzi. Questo è Ruffini. Perché se vuoi entrare nel ventilatore degli schizzi di fango, beh, mi inviti a nozze, Mi inviti a nozze qui il weekend. Chiama che... signorina che stai con Cruciani. Telefona in diretta 800 24 0024. Chiama parte. Ora, chiama domani. Lasciala in chiama parte, prima poverina della fine di questa trasmissione. Raccontaci di questo weekend di cui millanta il signor Cruciani. No, non millanto niente. Di cui si vanta il ti signor ho detto, Cruciani. Io ti ho detto in via del tutto riservata, invece tu sei uno stronzo. Guarda, sono di tutto riservata. Sì. 30 no, persone no, in rotazione. Tu. Tutto il CDR c'era. È sceso anche Napoletano, il direttore del Sole 24 ore. Di là, davvero, lo mettiamo in prima allora. Il Sole, apriamo. Sei veramente uno stronzo, guarda. Sei veramente uno stronzo. Ma è con noi Marina Ripa di Meana, buonasera. Buonasera, come state? Bene, dove si trova signora Ripa di Meana? A lavorare, sarà. Io a lavorare. Mi trovo a Sabaudia. E che cazzo fa a Sabaudia? Un meraviglioso tramonto. Non fare niente. Come al solito non fare una ben amata mazza, certo, diciamo, no? Quello certo. Beh, mi pare giusto, perché come devo giusto smazzare. Smazzate voi al posto mio. Giusto, giusto. Scusi, ma mi dicono che lei a Sabaudia, a parte che si fa fare dei ricchi massaggi, avevamo un patto che ero io che dovevo fare dei massaggi. Comunque vabbè, lei mi ha abbandonato. Io sono anche a Roma. Ma è sposata la signora. Ma che ti pare che non si fa fare un massaggio da me? La signora Ripa di Meana, cioè solo farà fare. E il marito non so se è d'accordo. Vabbè, ma il marito è d'accordo. Il marito guarda, no? Come guarda? Addirittura. Andiamo oltre. Che volevi sapere? Sarebbe meravigliosa come scena, comunque. Comunque mi dicono che lei è in compagnia di un cane. Anche. No, di molti cani, i miei cani sono tre per il momento, poi tra poco ne arriverà un quarto. Sono in compagnia di Riso Risotto, Mocha e Tango, i ma miei cani dici adorati. Perché allora, c'è qualcosa da ridire sul no, per carità, Riso compagnia? Riso Risotto, poi? Mocha e Mango. Tre e Mango, cardini, pug, tre quanto pug costano? Scusi, quanto costa quanto mantenere costa tre cani? Vabbè, costerà un ma po'. Ma perché dovete andare sempre su queste cose così prosaiche? Beh, prosaiche, si arriva di me, che costerà no, mantenere tre lei cani. Lei piange sempre miseria. Comunque vi posso dire che è il mio unico vero lusso. Ah, unico lusso, cioè mantenere veramente i cani. Sì, sì. Cioè costeranno anche un paio di migliaia di euro al mese mantenere tre cani. Adesso non esageriamo, no. Mille sì. Beh, per carità. Tra una cosa comunque e l'altra. Comunque è un lusso che mi concedo e che grazie a Dio veramente credo che non ne potrei fare a meno, perché la compagnia, l'amore, la passione che ho per questi animali, che ho in generale per gli animali. Sì, certo. Però questi poi in modo speciale. Senta, mi segnalano che ha chiuso la sua palestra preferita. Che cosa che mi hanno detto? Sì, quella di Prati, dove andavo anch'io. Ah, sì, veramente, è chiusa? No, pure quella di Prati è chiusa? Queste sono tragedie. Sì, sono cose no, quella di Prati non credo che sia chiusa, davvero? Quando sei stata l'ultima volta, scusa? Sono stata già da una decina di giorni, 15 giorni. Ah, allora sarà quell'altra che ha chiuso. Sì, hanno chiuso. No, hanno chiuso la palestra di Villa Borghese, quella. Questi sono problemi. Sono problemi molto. Io farei una petizione, forse vale la pena fare una petizione. No. Pare che abbiano chiuso in modo anche abbastanza, certo, insomma, discutibile. Hanno fatto fino all'ultimo giorno gli abbonamenti e poi hanno mandato tutti a quel paese. Ma scusi, ma quali sono le sue giornate nelle colline di Sabaudia, nelle dune di Sabaudia? Nelle dune di Sabaudia non si fa assolutamente nulla, si cammina sulla spiaggia per, certo, chilometri, Destro. Si fanno i bagni e si, sì, pensa e si medita. Ma si pensa a cosa nel suo caso? Pensa, i pensieri sono i più, per esempio, soprattutto si scappa da quell'orrore che è diventato, si pensa all'orrore che ha ridotto il nostro sindaco tal Ignazio Marino alla nostra, sì, città. Beh, ah, ecco, un orrore, lei dice, spazzatura dappertutto, città distrutta, veramente traffico impossibile, adesso addirittura poi pensa di chiudere altri denti, per cui non so questa ultima. Scusi, ma lei che cosa farebbe? Non so che cosa succederà. Se incrociasse Marino, che cosa farebbe? Io non so cosa farei, però incito tutti i romani alla a rivolta, fare qualcosa contro questo signore che già il nome Ignazio, già Ignazio, senti dal nome la perfidia. Ma no, addirittura adesso è il nome, la perfidia, che c'ha questo qua, Ignazio? Il nome già dice tutto, Ignazio. È Un orrore, dice lei, un orrore. Anche però Vespa. La città è veramente ai minimi termini. Io non posso uscire di casa che ci sono cassettoni di immondizia. Dai, non posso uscire di casa. Stai a Prati, no, un quartiere borghese. Voglio andare a venire a vedere che cosa succede in Prati. È veramente una cosa scandalosa. Scusi un attimo, ma secondo lei ci sono anche troppi rom in giro? Ci sono anche, più che rom, c'è un esercito di persone che arrivano tutte da sappiamo, insomma, Roma è il pellegrino. No, però Parenzo sostiene per esempio che non è un problema i rom, anzi addirittura quelli che danno l'assalto ai turisti alle stazioni. Ma io ho detto facciamo una cooperativa di questi. Lui vuole qui addirittura creare una cooperativa, certo, di rom, capito? Rom facchini nelle stazioni, ma smettila. Ma insomma, ragazzi, io non la penso così, io penso che bisognerebbe un po' ripulire questa città da tutto, dai rom, da tutto, ecco, e soprattutto dall'immondizia, ma comunque i rom spesso sono immondizia come l'immondizia, penso. Ah, i rom sono immondizia secondo lei spesso? Spesso sono tremendi, ti inseguono, ti derubano, sono anche tremendi, possono essere anche tremendi, non tutti naturalmente, ma molto spesso. Però io una cosa sobria, i rom. Io non sono dell'idea del Papa che dice che è una cosa che se non si trovano che è uno scandalo, ma quello che ha detto del pullman, no? Vi ricordate il pullman, ecco la famosa frase, io trovo che sui pullman i rom rubano e per cui teniamoci le mani in saccoccia, non sono dell'idea del Papa. Meno male. Mi pare che Marina. Senta, io però le voglio chiedere l'ultima cosa, signora Ripetimiana, che è questa. Io l'altro giorno ho lanciato una piccola provocazione, poi dobbiamo chiudere, che è questa. Una vera donna, una donna che ha, come dire, una veramente femmina. Ma che c'è? Ormai questo? Non può che usare un sex toy. Non può che usare sa cosa sono toys? Sa cos'è, ma che c'entra? I sex toys. Sex toys. Non lo sa, dai, ma perché mica deve saperlo. Io so anche perfino il cagnolino. Vabbè, quella è un'altra cosa. Un'altra signorina. Però un vibratore. Oh, vabbè. Fatelo usare Ignazio Marino, così se no ce lo leviamo di più. Lei niente di queste cose, niente? No. No, vabbè. Contatta Ignazio Marino. Un abbraccio, a presto. A presto, carissimi. Ciao, ciao, ciao, la vita è bella, Sabaudia, eccetera. Io pago. No, tu, se lo paga lei. Ma in parte c'è pure la pensione del marito. Vabbè, io ho capito, però. Amico mio. Zanzara top, eh. A domani. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Non mi moleste mosquito. Non mi moleste. La parola frocio, dicono che non la posso pronunciare, figa, capito? Ti devo figa. Cioè, i razzisti dell'anti. No, ti devo figa. No, quella ormai non si pronuncia più. Questa è bandito, io giuro, giuro. È bandito dalla zanzara. Quella ormai. No, frocio, infatti, non è divertente. Allora, siamo qui con Oliviero Toscani. Ma la chiesa, in realtà, caro Oliviero, che cos'è riguardo all'omosessualità? Che cos'è la chiesa? No, l'omosessualità. Allora, pensa di essere un marziano, cioè un extraterrestre, che atterri, diciamo, in Italia, entri in una bellissima chiesa cattolica, non sai niente di quello che è delle condizioni. Sì, dunque? Entri, vedi, uno attaccato, inchiodato a una croce, che sanguina. Vabbè, allora... poi, un altare... Sì. Un altare con dei bambini nudi che volano... Sono gli angeli, tu dici, ma lui non lo sa, scusa, tu vieni da Marte. Allora? Neanche sa cos'è quello lì sulla croce. Sì. È quello lì, ma voglio dire, con i fratini che li abbracciano. Poi vedi quell'altro sanguinante, perché gli hanno costato San Bernardo, ha tolto la pelle, sai, ce n'è di tutti i gusti. Allora? Io credo che un club sadomaso non sia così all'avanguardia. Ma non si può dire una roba simile. Ma non si può, sì. Ma scusa, io sono entrato, sono rimasto con la bocca aperta. La chiesa è un club sadomaso, ma figurati se io metto non è un club sadomaso, ma iconograficamente lo è. Per uno che non... Dal punto di vista, come dire, fotografico. Sì, esatto. Fammi un'immagine sadomaso. Ma sai quante milioni di persone sono offese? Si sentono offese adesso, però, per quello che hai detto. Ti dico, anch'io mi sento offeso. Ma da cosa? Da questa iconografia. A Radio Maria non ti inviteranno mai, secondo me, caro Toscani, dopo quello che hai detto. Dopo averla dipinto dal punto di vista fotografico, iconografico, come un club sadomaso. Un club sadomaso. Vilipendio della religione, comunque. Perché? Della religione. L'immagine del Vaticano, per te, che cosa ti stimola? No, il Vaticano, che cos'è in realtà per te? Per Oliviero Toscani, il Vaticano. L'ultimo show che ho visto a Roma, neanche i più grandi rocchettari, fricchettoni avrebbero fatto una cosa così. Cioè, dici il primo maggio? No, i due papi. I due papi che fanno santi altri due papi. È incredibile, tutto fatto in famiglia. Tu farai santo lui e tu farai santo Cruciani. Perché vi mettete d'accordo? C'è una buffonata, vuoi dire? Cioè, una farsa. No, no, non dico buffonata, dico che è incredibile, cioè, poco serio. E poi... tutti uomini, le suorine di fianco, le serve, le donne. Ma voi donne non vi incazzate? Ma scusate, voi donne non vi arrabbiate di questo club di maschi e basta? Ma nessuno le obbliga. È anticostituzionale, ragazze, svegliatevi invece di fare le femministe. Ma se uno sceglie... Andate in chiesa a lamentarvi. Cioè, le donne si dovrebbero arrabbiare. Non avete lo stesso parità di diritti con questi qua del Vaticano. Cioè, che è un club solo di maschi. Ma è logico, è la più grande invenzione omosessuale che ho mai visto. Cioè, no, questo mi sembra un po' la più grande, senza pensare al sesso. Cioè, la più grande organizzazione omosessuale. Ma che c'entra omosessuale? Tu hai detto che è la più grande organizzazione omosessuale, diciamo la verità. Vabbè, se lo vuoi far dire. Non l'hai detto prima. Sì, l'ho detto, ma non intendevo lasciamo perdere il sesso. Come tu vuoi fare l'assessore con Sgarbi? Non è che farai sesso con Sgarbi perché fai assessore con Sgarbi. Ma che è sta storia? Ah, sì, perché Sgarbi mi ha proposto assessore. Se ti rendi conto? No, ma capisci? Allora, aspetta. È la più grande organizzazione maschilista, omosessuale. Vestono da donne e ragazzi, non è con le sottane, è con tutto, fantastico. Ma è l'abito talare. Sì, è vero, sarà talare. Sarà talare, ma le donne si vestono così. È millenaria la storia della chiesa, non è che puoi venire qui in due ma minuti. Ma millenaria anche l'omosessualità, magari non per le scatole. Senti, ma tu sei ancora pannelliano? Bergoglio. No, io sono radicale. Credo molto più radicale, molto più radicale di Pannella, che darà la tessera di radicale al Papa, quindi perderà tantissimi Ah, perderà sì, tantissimi soldi, che non sono soldi, ma comunque. Senti, Bergoglio per te che cos'è? Un clown o uno grande uomo? No, Bergoglio parla come mio nonno 60 anni fa. Dice delle cose così banali che diceva mio nonno anarchico. Sì. Diceva queste cose qui e nessuno l'ascoltava, diceva un vecchio rimbambito. Adesso le dice Bergoglio e siccome è Papa tutti... È tutto un genio. Un genio. Beh, vabbè, però, ma dice delle cose così... Così normali, così direi, scusate, ma forse banali. Anche questo è rivoluzionario, no? Rispetto... No, che lo dica il Papa. Ma allora, in tutti questi anni qua, che cazzo ci hanno detto sti papi? No, beh, ho ci hanno detto delle cose inutili. Sì, scusa, l'impressione è questa. Il sì. Papa Wojtyła, Santo Wojtyła. Io mi ricordo di un giornale che si chiamava Color. Guarda, io lo so, è pericoloso. Fece una battaglia, fece una battaglia contro il Papa, che adesso è santo. E la radio questa, santo, perché lui era contro il preservativo in Africa. Sì. Vi rendete conto con l'AIDS in quel periodo? No, ma su questo hai ragione. Ha fatto dei disastri. Un assassino. Ma dico. No. Cioè, Wojtyła è un assassino. No, ma non si può dire. No, non pensavo a Wojtyła. Ma dico uno che dice. In un posto dove c'è l'AIDS era. È ancora adesso, purtroppo, non è più di moda. Di non usare il preservativo è un assassino. Ma sì, ma allora, ma siamo ancora in onda. Sì, sì, no, io chiedo, verifico ogni tanto. Però... Cos'altro possiamo dire? No, ma io te l'avevo detto, diciamo, non invitatemi. Ma allora, ma diciamo qualcosa anche sulla Confindustria, che so, a questo punto. Dai, sei qua? Parliamo di Confindustria. Diciamo qualcosa, su, ma chiudiamo definitivamente in bellezza. Va avanti. Dai un po' d'acqua. Ma rimani con noi. Tu non puoi parlare, perché proprio... I cattolici, ma io sono ebreo, sono però voglio dire, sentire queste cose rinnegato, un ebreo. Ma mi dispiace sentire queste cose, è una religione millenaria, appunto, come proprio mai tu, lo penserei tu ebreo, domandati che religione avevano quelli dell'olocausto. No, ma ho capito, vabbè, certo. Che religione avevano? Certo. Quelli dall'altra parte. Quelli dall'altra parte cattolici, sì, cattolici. Cioè, pure gli hai dato pure le naziste ai cosi, cioè, oltre alla... No, ma scusa. Cioè, ti rendi conto che per la prima volta in radio funzionano anche i silenzi? Cioè, il silenzio fantastico. E diventa allora, senti tutti ammutoliti. Però fermi, adesso ora arriverà un fulmine dall'alto, bom, qui. È tutta la vita. Arrivano messaggi, che dico questo. È tutta la vita che dico questo, sono stato sanissimo tutta la vita, ho 72 anni, sono sano come un pesce e non rompetemi le palle su quello che penso. Anche i coglioni, devo dire. Però si può dire anche i coglioni. Però un'ultima cosa. Ma perché un'ultima cosa? Il New York Times. Ti ricordi? Ti ricordi ragazzi, il manifesto? Ma mi fate condurre questa trasmissione? No, tu non conduci. Ti ricordi quel manifesto Amen del film di Costa Gavras? Costa Gavras era stupendo. C'era una croce cattolica fatta come svastica. Certo. Insomma, come mai Pio XII non l'ha fatto santo? C'è un problema là? Beh, basta, finito. No, però. Amen. È finito. È tutto. Alleluia. No, però voglio dirti una cosa. Ma secondo te, chi crede è un po' coglione? Chi crede nella religione cattolica? No, diciamo. No, assolutamente. Così, per aggiungere una cosetta. No, perché siccome non si è detto ancora abbastanza. Ve l'ho detto che sono fra i due ladroni o no? Zanzara Best, il peggio dell'anno. Pronto? Professor Pier Giorgio Di Fredi? Sì? Sono Francesco, buonasera. Oh, ma non mi dica veramente? Francesco, il Santo Padre. Il Santo Padre, mi alzo in piedi perché almeno questo glielo voglio dare come rispetto. Spero... fa molto piacere sentirla. Come mai mi chiama? Spero di non disturbare il suo lavoro. No, sono venuto a Pordenone a fare una conferenza su Lucrezio. Anzi, lei lo sa che noi ci incontriamo? Gliel'hanno detto? E questo non mi hanno riferito. Perché io vengo il 25 di ottobre, quindi la prossima settimana, alla messa a Santa Marta, perché una mia cugina che è molto religiosa ha perso il marito per una leucemia, mi dispiace molto, è molto doloroso. Piacere, infatti lo so, mi ha detto che le avrebbe fatto piacere venire a messa da lei, no? Io ho chiesto al cardinal Ravasi che conosco e lui gentilmente mi ha detto se volevo anch'io unirmi, diciamo così, e quindi vengo volentieri alla messa di Santa Marta la mattina. Questo mi fa molto piacere.